Va bene. Buonasera, questo è il primo episodio di introduzione di Zeros, che sarà una sorta di spin-off per Unstructured Heroes, magari più casalingo, non lo so. E in chiamata io ho solo Marco per il momento, con cui faremo la scheda. Buonasera. Cominceremo a fare la scheda. Conviene farne bene una e poi dopo quando arrivano gli altri ci sarà un casino pazzesco e non si capirà più niente. Quindi. Sì, più che altro dovrò spiegare di nuovo tutte le minchiate per Jamf, quindi faremo prima la sua scheda e poi quelle degli altri babbuini. Ho ricevuto 12 messaggi nel frattempo. Allora alla fine... Ok. Visto che siamo solo in podcast, tolgo un attimo la telecamera, che così scrivo sul Surface la scheda. E... Sì, tanto a me frega. Dunque, le abilità ho deciso di farle scegliere ai giocatori perché vogliono interpretare se stessi, come in Unstructured Heroes. In questo caso saranno più sgualciti. Però vabbè, solo tre abilità a testa e il potere verrà tirato a caso. Quindi comincerei con Marco subito, senza fare la sua abilità ovviamente. Se ci sono dei poteri che decidi che non vorresti avere, me lo dici subito. Sì, vorrei non divino e non derivato. Non divino e non derivato. Quindi genetico, psionico o magico. Ok, allora Marco, il tuo personaggio si chiamerà Marco, potere, vai, tira un D8. 1. Tu hai detto non divino e non derivato, giusto? Esatto. Ok, mi tiri un bel D100. Ok. Dai, questa parte è un po' pallosa perché... 42. 42. La risposta alla domanda fondamentale. Ovviamente lui sarà quello OP. Solo che non lo trovo. Ecco qua. Ok, hai il potere e... L'origine, Non anche dirlo. se non lo sai. Non lo devo dire, no? No. E ora mi tiri il difetto, che è un D6. 3. Ottimo. Sa che tirerai un botto di dadi. Ah, e Luca non c'è, ha detto. Ok, mi dovresti tirare un altro di 8. Vai. 7. Infine, perché c'è un infine, Certo. anche un di 20. 9. Casino perché non so dove sia. Poi ci puoi avere delle foto con i possibili potenziamenti per vedere come si possono potenziare dopo. Sì, vabbè, ovviamente Quello perché più adesso. avanti si era. Sì. Allora, dunque mi devi tirare un D4 due volte. Wow, cosa mi è capitato con tutti È questi? un bel po' di roba. 3 e 2. Non è vero. Ok. Ok, e in realtà la tua scheda è finita qua. Perfetto. Visto che gli altri ancora non so se sono pronti, non credo saranno pronti. Beh, le cose tipo Sì. fisico, riflessi in mente, quelle lì, me li ricordi che non me li ricordo più perché non penso ci siano molti modificatori. Volevi Penso che faremo per. anche con Jamf. Comunque, se tu non hai niente di speciale negli eventi di vita, cioè non so, se ti viene tirato fuori, boh, quando ero giovane, sono stato traumatizzato, eccetera, e hai un D6 su tutto. Ecco, magari, ecco, probabilmente dovrei abbassare il dado di sociale, molto probabilmente. No, vabbè, ma è una cosa grave se è più basso. Tipo, non so, è una cicatrice che ti occupa tutta la faccia. Cioè, una Ragione, sono roba. Vabbè, bellissimo. Sto ma un D6 fa scherzando. conto che è la media. Sì. Allora, un D6 a tutto avrai. I Controllo incluso, però. punti ferita, non so se te ricordi. No, quelli me li ricordi, erano 50 per la Ok. testa, 150 per il busto e 100 per gli arti. Esatto. Okay. Esattamente. Allora, il Iniziativa tuo. era il dado di riflessi, se Sì. ricordo bene. Azioni, risposte 1, Lei una, sì. Per che siamo umani, miseri umani. il momento. Potenza era per 10? Potenza è per 10, se, a meno che tu non abbia delle cose particolari anche lì, tipo sei un Adesso lo raitico, eccetera. scopriremo. Ah, no, in, sì, nel senso, Sì. vedremo. Per ora no, non è che faccia troppa palestra, però. Ok, la psiche è il dado mente. Il tuo stato Giustamente. sociale direi che è medio borghese. Ok. Che altro? Ah, quello, la cosa che puoi scegliere è la professione. Io ho messo studente, sinceramente. Allora, ti ricordo quali sono, se le trovo. Ah, sì, è vero che c'era tutta la. Esattamente, puoi anche decidere di non sceglierla, ovviamente, però c'è. Non ci Cos'è puoi che faceva? fare. Non mi ricordo quali erano le conseguenze. Di solito queste qui ti danno una cosa, un vantaggio e uno svantaggio, una cosa positiva e una negativa. Sono le, diciamo, scegli quello che potrai o che vorrai fare nella tua vita, o che stai facendo, nel senso. Allora, gli esempi sono accademico, che è studente o professore universitario. Guarda, per restare fedeli alla realtà ti interrompo subito, metto quella lì perché è quello che ho fatto finora, non è che. Sì, volendo però. Di pure? No, sì, potresti Perché un po' me scegliere le quello. ricordo dall'altra volta, mi sembra che anche Allora, di l'altra altre cose c'è nerd, volta. sportivo, viaggiatore che potresti avere, Ok. No, non penso. oppure Penso che il più artista, accademico. adatto sia. Accademico, studente. Ah, puoi mettere una conoscenza in più. E in Ok. fase di creazione. Gli altri ti dovranno attribuire un'altra conoscenza, perché devi partire con almeno due abilità che sono conoscenze. Beh, lo faccio mettere agli altri, no? No, Facciamo una la che. puoi scegliere tu, e perché fa parte della scelta di vita, però gli altri ne dovranno scegliere un'altra. Sì, ma io ho scelto la scelta di vita in base alle mie scelte di vita, quindi vediamo se gli Ok. altri hanno due conoscenze da darmi, ci sta, Va bene, ci sta. altrimenti ne scelgo una io a caso. Ok, approfitto per dire alcune cose dell'ambientazione. Allora, questo, visto che tanto nessuno ci ascolterà, però magari qualcuno Dire. dell'altra campagna ci ascolta, non lo so. Qualcuno veramente un cazzo da fare, voglio dire, Esatto. non siamo O peggio io di altri. Non stesso. siamo peggio di molti altri programmi che ci sono adesso. Ah no, sicuramente. Ah, questo è ambientato. Allora, l'ambientazione è la stessa di Unstructured Heroes ed è ambientato un pelino nel futuro, nel senso che è il 17 febbraio di quest'anno. Mentre gli Tipo un altri mese da sono. adesso. È un mese da adesso. Esattamente. Mentre gli altri sono, mi pare, tipo il 2 settembre, qualcosa del genere. Sì, no, erano nati qualche giorno più avanti, no? Mi sembra. Tipo avevano iniziato la campagna proprio che Il era il primo 31 settembre. agosto hanno Ah, ok. cominciato e Allora sì, mi sarà sa che è tipo. il 2 o il 3. Vabbè, Deve essere adesso circa così. aspetteranno un mese perché intanto Sceo ha la sua cazzo di gamba. Ok, e siete tutti a Bologna per comodità, almeno quel giorno lì, poi in futuro ognuno farà quello che vuole. E altro? E ovviamente ci saranno, potranno esserci link tra le due cose, stesse cose di ambientazione, se magari salta fuori il professore. Ricordami, questo è l'universo di Urbanius, nel senso è esploso il CERN e tutto quanto? Sì, io terrei più o meno la stessa idea, Ok. però meno invasiva. Per quanto Ok, sia. sì, è ancora più, diciamo, nell'ombra. Diciamo. Esatto, per quanto sia bella l'ambientazione di Urban Heroes, mi sta un po' sul culo che sia troppo. Cioè, tutti gli eventi sono legati a questo. Cioè, poi è ovvio, per esempio, che ne so, l'attentato a Parigi, eccetera. Però non sono cose che ci toccano direttamente. Perché siamo fortunati, non lo so. Però fatto sta che nessuno di noi era a Parigi durante quello. Per cui allo stesso modo farei la stessa ambientazione, ma distante. Cioè sono VIP, sono cose che fanno notizia, ma non che riguardano la vita di tutti i giorni. Basta. Assolutamente d'accordo. Perfetto. Perfetto. Ora Vediamo dopo. se gli altri, ormai sono le 9, si spera che anche gli altri Sì, siano. posso provare a chiamare Edo oppure facciamo una pausa di registrazione. E boh, provo ad aggiungerlo, ma non credo che sarà presente. Vabbè, intanto faccio una leggera pausa nell'audio, poi linkerò. A dopo. Torniamo dopo la pausa. A noi c'è un prequel piccolino, un teaser, in cui io e Marco abbiamo cominciato a fare un minimo la sua scheda. Io direi che possiamo cominciare con la scheda di Jamf, così intanto gli spiego un paio di minchiate e andiamo dritti. Andiamo, aspetta, torniamo che la scheda ce l'avevamo già dalla scorsa volta. Sì, ma non è la stessa. Quindi dobbiamo rifarla. Già. Da qualche parte c'è. Dove sta la scheda sul A Dropbox? meno che non vogliamo fare tutti noi stessi e tu fai com'è che si chiamava John McIntyre, Sì, l'inglese, John non mi ricordo. McClane. Allora, Jamf, hai una scheda sotto mano? No, era Sì. Arthur qualcosa, è vero? Dropbox. Era Arthur qualcosa. Non ho capito niente di quello che hai detto. Vado sul Dropbox. No, non c'è sul Dropbox. E dove sta? Cioè, Te la trovo io e te la metto sul Dropbox, aspetta. una cosa sola dovevi fare. I colpi. Sì, quando è che abbiamo fatto le È un quiz? botto di tempo fa. Vai sul sito di Urban Heroes, no? Ah, mentre gli altri cercano, Jamf, cagami. Ah, tu e tutti voi interpreterete voi stessi. Ci siamo. Però l'ambientazione non è la stessa. Allora, è la stessa di Unstructured Heroes, che voi non avete ascoltato, ovviamente. Vabbè. Allora, la prima cosa. Sì, servono i dadi. Sì, come in tutti i giochi di ruolo. Madonna, però. Giusto. Dovrebbe essere sul Dropbox, sia in italiano che in inglese, perché ho messo prima che Sulla tua lasciavo. cartella, Marco? No, nella cartella di chi trova un. Ok, ci siamo. Allora, dicevo, l'ambientazione non è esattamente la stessa. O meglio, ci sono alcune differenze. Nel 2008, quando hanno acceso Jamf. Sì, Marco ne messe due. Sì, uno in inglese e uno in italiano, ho sbagliato a mettere. Ah, ok. Nel 2008, quando hanno acceso l'acceleratore al CERN, è esploso. Da quel momento, No, volevo fare una battuta, mi sono trattenuto. Okay. In quel momento, a parte tutti i casini che ne sono susseguiti, c'è stata la comparsa di alcune persone che vengono definite heroes perché possiedono dei poteri non comuni, poteri tipo quelli che hai letto nei fumetti, quelli Marvel, DC, una cosa del genere. Le origini dei poteri sono diverse. E l'altra cosa... Come? No, niente, niente, sono eccitato per la situazione dei poteri. Ok. Da quel momento sono sempre comparsi sempre più persone che mostrano dei poteri. Ovvio, non è una cosa stracomune. È come se fossero i VIP, come dire, ho visto Tom Cruise, ho visto uno che solleva le cose col pensiero. Ok. L'altra cosa, molti degli eventi che sono avvenuti dopo il 2008 CERM, sono stati sono collegati a queste persone con i superpoteri. Esempio, tsunami. Tsunami è stato causato da un super mostro gigante che è stato ucciso e sconfitto da alcune squadre che sono tipo una roba alla Justice League. In particolare ci sono diverse squadre, una americana, una europea e una inglese. Sono comunque cose lontane, sono cose che tu leggi nei notiziari, tipo attentato Nizza, che non ti toccano nel te stesso, ma sai che esistono. Altra cosa, la gente si schiera in entrambi pro e contro heroes o non heroes, come per tutte le minchiate che ci sono adesso sul web, tipo, che cavolo ne so, la sigaretta elettronica fa venire il tumore, c'è chi dice che fa venire il tumore, chi dice che non è. Allo stesso modo gli heroes sono buoni per la società, gli heroes non sono buoni per la società, allo stesso modo. Quindi anche voi avete un'opinione vostra sugli heroes, ovviamente. Detto questo, hai la scheda sotto mano? Quasi. Ok, quando avrai la scheda ti darò le prime robe. La prima scheda che facciamo è la tua, visto che non sai le regole, anche se in realtà non le sa nessuno, ma va bene. E tu interpreti te stesso, uomo comune, con le tue stesse abilità, più un superpotere di cui non conosci origini, che cos'è, eccetera. Non si è mai manifestato per il momento e si manifesterà mentre giocate. Speriamo che ci quelli. Tra le origini che puoi scegliere dei tuoi superpoteri. Posso scegliere i superpoteri? No. No, puoi scegliere le origini. Ci sono diverse origini e anche diverse teorie, diverse pubblicazioni, diversi lavori, diverse... Esempi. Ci sono quattro tipi di origini dei poteri. Cinque tipi? No. Sì, cinque tipi. Vabbè. Scusa un attimo, dove avete messo la scheda? Su Dropbox. Su Dropbox. Sì, però articoli, Marco, roba, salvo. Nella cartella chi trova un coboldo. Scheda, ok, Urbanios. Sorry. Ce n'è uno in inglese e uno in italiano. Ti dico una cosa rapida. Allora, le origini sono cinque. E sono genetiche, puoi intuire, divine, anche questo puoi intuire, magiche, sono tipo Doctor Strange, e psioniche, ok? Sono anche psioniche. C'è anche un'altra origine particolare che si chiama derivate, ed è alla lanterna verde, cioè un oggetto che ti dà il potere. Chiaro? Sì. Ora, se hai delle preferenze sull'origine, se no le tiriamo a caso su tutte. Preferenze inteso roba che proprio non vuoi, che ti fa proprio schifo. Tipo, tu dici, non vorrei essere genetico perché comporta mutazioni che ti alterano e sei brutto al cazzo e non lo voglio fare. Onesto. Per esempio, quindi... io ho chiesto di non averlo derivato e di non averlo divino, perché erano due cose che non mi piacevano. Esatto, a me non mi piace il derivato, perché... Ecco, il già... derivato sembra un po' un'inculata. Il potere dovrebbe essere più ampio, perché c'è solo l'oggetto rispetto a uno. Più che altro ti dà accesso a potenziamenti che sono specifici per questa cosa. Quindi sono cose un po' diverse. Cioè, allora, la prima cosa che vi devo dire è che tutte le cose sono bilanciate, più o meno bene, ma in generale sono tutte uguali. Nel senso, i poteri più forti comportano difetti maggiori. Ok. Quindi, nel senso, è ovvio che puoi scegliere di avere la cosa più figa, ma avrai anche la sfiga più grande. Ok. Hai qualcosa detto questo? Allora, per evitare? Non vorrei avere genetico. Non genetico. No. Dai, il resto lascio scegliere al caso. Anche derivate? Fuori dal gioco mi piacerebbe un personaggio molto simile a uno vestito di rosso che è molto veloce. Quindi non quello so. È genetico però, eh. Ah sì? Eh sì. Beh, allora voglio solo il genetico. Ecco. Ma scusa, perché il genetico io l'avevo capito come qualcosa, tipo, che cazzo ne so, diventi come la cosa di Fantastici 4. Sì, potrebbe capitare. Però potresti essere anche Mr. Fantastic, giusto? Sì, però magari è Mr. Fantastic che ha, non so, la coda. Ah, giusto, era quel tipo di mutazione. Il potere genetico comporta anche una mutazione visibile, molto visibile, genetica. X-Men, detto in modo molto vago. Sì. Divino, dai, non fai troppo opinione. Uso un po' di vino con generico, cioè nel senso, divino vuol dire che è derivato che no. Da un essere superiore? Sì, no. Cioè Dio ti ha dato il potere, ma non è che lo devi pregare. È tipo Thor, però il Thor originale che era un professore e quando ha ricevuto il potere è diventato un demente che può usare un martello. È il Thor degli anni 50, non so quando cazzo è uscito. Non lo sapevo questo. Ma quindi l'originale Thor semplicemente aveva preso il martello ed era diventato scemo? Come è uscito il personaggio, sì. Adesso è un po' diverso. Però, vabbè, l'idea di genetico è quello comunque. Cioè, di divino è quello, scusate. È una cosa che ti cambia così tanto che spesso ti cambia sia a livello fisico sia a livello psicologico. D'altra parte i poteri divini sono quelli più forti in assoluto. Ok. Anch'io tolgo genetico e derivato. No. Gianf. No. Vabbè, io allora levo il derivato. Sì. E quello della psico. No. Quello psionico. Psionico, sì, esatto. Cos'è la psionica? Quindi lascio genetico, magico e divino. Esatto. Telepatia. Un di 6. Sono i poteri mentali, Gava, tipo... Quello che avevi tu l'altra volta, Gava. Anche Ferro. Presente un po' tipo il Professor X degli X-Men, ma neanche tanto, alla fine. Cioè, quello è figo, però quello penso che sia... Cioè, sarebbe figo quello, uno dei migliori, forse, però non ci avrei mai il potere di Xavier, quella traduzione, quindi no. Ah, un'altra cosa che non ti ho detto. All'inizio, ovviamente, siete delle pippe. Vabbè. Ok. Non sei i poteri, cominci tipo, a fare... Ok. Perché il potere poi si evolve, Gianfe, e questo è bello. Io faccio Firebolt e poi faccio Fireball. Esattamente. Però ora tirami un D6. 5. Lo devi far tatuare da qualche parte. Prima Fireball, poi Fireball. Sì, cioè, prima inizia a sparare le fiamme. Anzi, prima faccio proprio le fiamme delle pippe. Di 100. Di 100? Di 100. 100. 42. Come, anche lui? Che schifo. Ho tirato anch'io 42 prima. Vedi, siamo uniti da un legame più forte l'amicizia. Il culo. Ok, Tirami un D4. D4, tirami D4. Due. Ma sono delle statistiche o sono tipo delle cose random? Perché sto facendo un po' di un po' a cazzo. Ma no, è casuale. Ah, stiamo generando il potere. Ora mi devi tirare un D6 per il difetto. Scusami? Allora, ogni potere ha un difetto collegato. Che può riguardare l'attivazione, può riguardare un qualcosa che ti succede quando lo usi. E di solito è abbastanza negativo. Questo difetto si evolve con il potere. Quindi se per esempio tu hai il difetto per cui quando attivi il potere senti dolore, se il tuo potere diventa più forte, tu proverai più dolore. Chiaro? Un D6. Due. Ok. Okay, devi tirarmi un D8. Anzi no. No, scusa. Questo è un D8. Ciao. Quante belle cose ci sono. Diventi, lo so. No, tirami un D6. 3. Va bene. Ok, adesso io so il tuo potere e ti verrà rivelato mentre giochi. Ok, questo. Giochiamo un tipo di campagna che viene chiamato Origini, per cui voi all'inizio ricevete il potere e con calma nella prima sessione o seconda capite che potere avete. Sì. Ora dovreste decidere le abilità. Ok, normalmente ci sono dei tiri da fare, però per comodità o anche per piacere mio, le abilità, tre abilità, saranno decise dagli altri giocatori. E anche spiegate dagli altri giocatori. Okay. Quindi voi nel altri, senso, tranne Zanf. Noi quattro adesso, io, Jacopo, Edo e Gava, dobbiamo scegliere le tre abilità per Zanf. E dare una non c'entrano niente col potere. No, rappresentano le tue conoscenze, proprio le tue conoscenze. Per esempio, una delle nostre scelte potrebbe essere esperienza a LOL. Se proprio non lo sceglierei mai su Jump. E un'altra cosa, come vedi nella scheda, le abilità si dividono in diverse, non so come dire, specialità, categorie. Categorie, bravo, mi piace. No. E questo perché non è tipo non sono tipo le abilità di D&D o di Star Wars o degli altri giochi che hai fatto, ma sono abilità complesse. Per cui, se tu per esempio hai come abilità hobby elettronica, so fare, che ne so, le batterie, no. Sì, boh. Oppure, non so, sport, trekking, esempio stupido. Durante il gioco, quando io ti dirò tirami per scappare dal tizio, tu mi dirai, io ho l'abilità trekking, posso usarla in questo caso? E il tuo dado verrà aumentato. Ho capito. Quindi quello che faccio nella vita comune, quindi se sono obeso, brutto, sempre seduto, non sarò capace di scappare, anche se ce l'ho di quel potere. Sì. Sono come la cosa. No, allora, obeso ti lega alle caratteristiche. Mentre se sei per esempio uno che è bravo, che gioca molto ai videogiochi, magari hai un'iniziativa più veloce, quindi nel tiro di iniziativa sei più pronto, i tuoi riflessi sono più pronti e mi puoi dire, Salla, io sono hobby videogiochi, posso tirare un D8 invece che un D6? Quindi un po' capito che può essere introdotto, esatto, c'è molta descrizione sia mia che tua. Esatto, devi giustificare il modo con cui la usi. Ne avete tre e si dividono nelle categorie che leggete sulla scheda. Ma conviene prima fargli scegliere la scelta di vita come hai fatto fare a me, così se c'ha qualcosa da aggiungere. Sì, anche. Allora, la scelta di vita è qualcosa che tu fai o vorresti fare in futuro, ed è una sorta di professione, classe, qualcosa del genere. Per esempio, Marco è uno studente e ha deciso di prendere come scelta di vita accademico, che lo definisce come studente e gli dà un bonus, una conoscenza in più, e un malus, ovvero due delle sue abilità dovranno essere conoscenza. Se vuoi ti leggo quali sono e puoi sceglierne una. Non è obbligatoria, puoi anche non sceglierla. Boh, era, cioè, sì, ma no. Cioè, era simpatico fare proprio una cosa vera, cioè molto più simile a noi come... Eh beh, è simile, lui è accademico perché è uno studente. Io ho scelto quella perché sono studente, non è che... Ah, cose che tu potresti essere, tutti essere è accademico, per esempio. Altre cose, artista, se sei bravo in un'arte che non conosco. E... nerd. E... che altro? Forse anche viaggiatore, non lo so. Se sei uno che viaggia molto. Sportivo anche. Magari. Ti piacerebbe viaggiare molto. O anche sportivo, esatto. Puoi anche non sceglierla, eh? Non è obbligatorio. Ognuna di queste comporta un vantaggio e uno svantaggio, che la rende più o meno equilibrata. Giustamente, quindi scegliere una cosa mi darà, invece delle due abilità già si sa quali sono, sono indirizzate verso quella scelta, giustamente? No. Ah no. Dipende dalla scelta, se per esempio tu... Posso avere sia che ne so, che sono ultra intelligente, che sono bravo in chimica... Tu puoi mettere... conoscenze chimica, se hai delle conoscenze accademiche di chimica che non hai, e allo stesso tempo essere come scelta di vita nerd ti dà un rango extra in hobby e una conoscenza extra, in contro hai il tuo peso aumentato o diminuito di un bel po'. Bellissimo. No vabbè, secondo me preferisco essere un po' sportivo, se proprio... Sportivo però vuol dire che ti alleni tutti i giorni e che è una cosa continuata. Puoi anche non essere devo nulla. Ma devo farlo per forza anche nella vita normale, tipo domani andare per forza in palestra, se no mi bagni. Allora, questo rappresenta come sei tu adesso. Okay. Se non ti vedi in nessuna di queste categorie, semplicemente sì, non sei... Perché ero un po' sportivo, ma ormai... Troppo... Comunque adesso avete tre abilità voi da attribuire a Jamf. Una di queste, cioè il bonus in più uno, è che tu hai la patente di guida. Ovviamente. Buono. Oddio, ce l'hai, sì, immagino sì. Sì, ti faccio vedere se non va bene. Detto questo, decidete voi le tre abilità da dare a Jamf. Il nome del personaggio è identico al mio, giusto? Sei tu, Jamf. Adesso scopriamo che il suo vero nome è Carlotta o Gallifrey. Date le abilità a Jamf. Vabbè, una spero almeno sia computer dopo 3 anni di ingegneria informatica. No, assolutamente. Ma quando? Invece no, è quello il bello. No, ok, io sono molto bravo in cucina. Le abilità il sarto, so cucire. No, ci vede voi, è più divertente. Cercare di beccare quello più serio. Cioè, adesso, purtroppo io sono un po' quello esterno al gruppo, non vi conosco così bene, soprattutto quelli di San Benedetto che... Io direi... cresciuti insieme, voglio dire. Io direi tipo qualcosa tipo persuasione, qualcosa però parlantina. Ci sta. Però simpatico. Probabile. Io riesco a essere ossimorico. Come è la tua professione? Com'è che si chiama? Secondo me è tipo... Vabbè, allora, cominciamo a eliminare un po' di retorica. No, non retorica, no, assolutamente. No, ok, mica Dante. Direi che armi e arte, no. meno che non hai qualche passione segreta per la pittura o la scultura. Armi elevato. Wow, arte anche. Arte può elevarla. Armi? No, arte vuol dire che... Un sacco di anni software. Ehi, attenzione al master. Scusate, arte vuol dire che potresti guadagnare su quell'arte. Mentre hobby, se tipo sai suonare la chitarra, metti hobby chitarra, a meno che tu non suoni davvero in un gruppo e lo fai nei locali, capito? Capito, giustamente. Un hobby è un hobby, se è un qualcosa di più, è un qualcosa di più. Puoi mettere anche hobby giochi di ruolo, anche se sei un pessimo giocatore di ruolo. Non mi sembra, Skyrim sono molto molto potenti. E non ho usato i troppi per lo stessi creare. Puoi mettere anche hobby videogiochi, se. Ma sì, dai. È più divertente. Però io sono il primo, quindi cioè, potrò scegliere anche a voi. È solo per dire, visto che così io lo sceglierò a voi, il corrispettivo. Penso di merda. Ho detto, io penso a qualcosa tipo parlantina, qualcosa, cioè, che lui è bravo magari a persuadere gente con le sue motivazioni, anche che possono sembrare insensate, però lui ti convince lo stesso. No, ci sta, non mi viene una parola giusta, però effettivamente. Sì, certo. Solo che ho venduto cose al doppio di quando l'avevo pagate qua. Esatto, tipo, quindi da lì. Tipo, che so, maestro del mercato nero, qualcosa del genere. Perché dovrebbe venire? Il bicchiere mezzo pieno. Chiamiamola parlantina. Lui c'ha la parlantina. Cioè... parlantina, sì. Trattendo, bene. Simpatico, carismatico. Tanto l'importante è che sia chiaro a noi. Quindi sì, infatti. Scrivi, Giampe, scrivi. Scrivi. questa però dove la mettiamo? La mettiamo in... questa conoscenza. La metterei sotto hobby. Sì, ci sta. Che so parlare? Sì, dai. Sa parlare, ha la proprietà di lingua. Questa è una. Volete dargli una lingua? Parla qualche lingua? Italiano. Grazie. E anche qualcosa in giapponese. Grazie. Scusa, l'inglese non l'hai fatto al primo anno? Sì, che l'ho fatto in inglese. Ma questo è quasi standard, cioè, boh. Cioè, gli hobby... le conoscenze ingegneria che ha? Si spera. Ci sono bravo, so farlo. Puoi mettere conoscenze e programmazione, per esempio. Vai. Allora, parla. Allora. Quello praticamente, vabbè. Conoscenze ingegneria abbiamo tutti qua. Se ci vengono in mente altre cose così, dico, per noi altri, diciamole subito, sì, così magari iniziamo già a scriverle. Oppure puoi mettere conoscenze informatiche. Quello ci starebbe. Vabbè, quante ne mancano? Una. Metti parlantina, computer, questo parlantina per dire... E metterlo sotto conoscenze. E ancora una e dovremmo esserci, no? Poi, non lo so, fai qualche sport? Maratone di film. Puoi mettere hobby, film e serie TV. Ci sta. Oppure video su YouTube. Cazzo, non so. È un grande espositore del trash. Cinema. Sì, non stiamo a perderci troppo, perché poi se no un attimo le correggiamo dopo. Lo so che sono belle importanti, però. Ok. Armi? Scusa, non ho capito, che sono bravo con le armi o che devo avere delle armi? No, devi saperle usare. Io le so usare. Cioè, no, decidevo però. Sono queste. Già, non sapevo che avessi fatto. Ah, sì, mi piaceva tanto. Era molto bravo, infatti ho speso un sacco di soldi ultimamente. Professione? Chi è il prossimo? Date le abilità a Marco. Ho un'ultima domanda, poi non ti interrompo più tra le abilità, non interrompo. Guide, cosa intendi? Che è la patente di guida. Ah, proprio guida in generale, cosa sei guidato? Allora, facciamo subito una cosa prima di continuare a te, così poi non la ripeto 20.000 volte. Allora, voi siete persone normali, a meno che non abbiate cose particolari che verranno decise adesso. Quindi tutte le vostre caratteristiche... sono un D6. Quelle fisico, riflessi, mente, sociale, eccetera. Sono quelle quattro lì. Bello. Io non penso che nessuno si qualifichi per essere abbassato o alzato in queste categorie. Un D6 nel senso, un D6 non dobbiamo tirarlo. No, un D6 vuol dire che quando la dovete usare tirate un D6, perché qua funziona così. Ogni cosa, jump, devi tirare un dado. Sì. Ok. Cioè il punteggio è il dado corrispondente. Quindi se per esempio sei molto bravo a fare una cosa, tirerai un D8 invece che un D6. Ok. Questo vuol dire che non hai modificatori, non hai niente. Puoi fare il massimo, come puoi fare anche uno. E vuol dire anche che se tu hai un'abilità potrai fare per esempio 8, mentre quell'altro sfigato farà al massimo 6. Domanda, anche in controllo un D6? Controllo un D6, sì. Quindi tutti un D6? Sì. Tutti un D6. Ok. Iniziativa. Avete il tiro di riflessi. Cioè è lo stesso dado di riflessi? Esatto. Mm-hmm. Avete un'azione e una risposta. Una risposta. 1 e 1. Sì. Potenza è la vostra forza fisica ed è per 10. Ok. Quindi è per 10. Ed è il modificatore che verrà usato per i danni in corpo a corpo. Ok. 1 e 1 e poi un'altra cosa, di psiche. La psiche è la vostra stabilità mentale ed è pari al dado mente, quindi 6. Cioè il massimale del dado mente. Esatto, scusate, il massimale del dado mente. La psiche può essere usata in gioco e per aumentare un tiro di dado. Chiaro? No. Come la donnina che vede il figlio che è sotto la macchina e solleva la macchina, voi potete usare questa psiche come sforzo sovrumano, perdete uno dei punti psiche, okay, e aggiungete il vostro massimale di psiche al tiro di dado. Quindi se per esempio dovete tirare un D6, sommate 6 e perdete un punto psiche. Il punto psiche è la vostra stabilità mentale, quindi diminuirlo in assoluto non è un bene. Per recuperarlo dovrete stare 24 ore totalmente a riposo. Okay. Un altro punteggio che c'è è la fatica, che rappresenta appunto quanto siete stanchi, e anche quello va tenuto basso, perché più si alza e più voi vi stancate, più state male, più crepate. Okay. Punti ferita. Come vedete è diviso in locazioni, per cui quando voi colpite qualcuno lo potete colpire a una di tutte quelle locazioni, o più, se ad area. La testa ha 50 punti ferita. Ci sei? Ecco qua, sì. Il busto 150 e gli arti 100. Allora, la testa è a 50, no? Sì. Quindi se faccio... Se la seconda colpisce con 50, headshot e muori. Esattamente. E questi non aumentano con il livello. Porco. Quindi è facilissimo crepare male. Che bello, sono molto felice. Però ci possono essere poteri che vi danno delle resistenze o roba del genere. Ok. Vai, dite, fate l'abilità di Marco. Vabbè, inglese anche lui. Non ho sentito, scusa. Vabbè, anche tu inglese. Sì, inglese io direi di parlarlo abbastanza bene. E computer anche, direi. Alla fine io devo avere 4 perché ho scelto accademico. Lui avrà conoscenze informatica, diciamo. Dovete dargli anche un'altra conoscenza. A conoscenza proprio? Sì. Sa costruire prodotti, ma possiamo anche andare oltre proprio al fatto fisico. No, è lui stesso. Che anche io questa cosa qua non sapevo che potevi non scegliere la cosa, quindi al massimo potrei toglierla anch'io nel caso, come ha fatto Gianfermo. Però potresti avere conoscenze di un altro tipo, non so. Sì, non so, quello c'è. Io non so cosa vi fanno studiare a voi ingegneri, però magari qualcosa di matematica lo sai. Perché matematica forse abbiamo fatto un po' di elettronica, che quella potrebbe essere... Sì, puoi mettere... conoscenza informatica e conoscenza elettronica. Ci sta abbastanza. Sei informatica, per forza. Di legge. Legge, tra le cose. Ho scoperto un sacco di cose simpatiche, però. Dovete dare un'altra abilità, Marco. Abilità in generale... Dai, è acuto. C'è il senso. Puoi dargli un hobby. Mi viene il nome. Cioè, tipo sì. Cioè, capito? Voglio dare bene la situazione. Come la volta scorsa, in hobby, tipo, ci potrebbe essere quella... attualità, tipo... Che ti interessi molto della vita, interessi del gossip. Sì, cioè nel senso che leggo un po' di notizie in giro, so cosa accade nel mondo. Sì, va bene. Queste cose qua può andare bene perché un po' mi tengo informato, diciamo. Se a voi altri va bene, va bene. Sì, direi sì, ma non me. Troppo, sono quelle che conoscete da meno tempo e non conoscete ancora tutte le parti più oscure di me. Veramente è Frederick quello che conosco a meno tempo. E non conoscete, non conosciamo nemmeno tutte le parti più oscure di Gava, per questo. Di Gava, lo so, è quello che mi spaventa. Ok, chi è il prossimo? Prossimo. Jacopo, dai. Aspetta, la patente, quindi se ce l'abbiamo dobbiamo metterla. Sì. Però ho messo patente e... No, beh, non conta come abilità. Okay. È una cosa in più, aggiungila, come la lingua anche. Sì, no, ok, quindi in inglese pure posso metterlo a caso. Sì, sì, poi te ne diamo altre tre nuove. Beh, una è sicuramente videogiochi, cioè, ti dovrebbe dare anche un bonus sull'iniziativa questo, sinceramente. Ah, c'è cioè l'interfaccia di quindi, hobby videogiochi lo devi scrivere, Jacopo. Cioè, sì. E puoi mettere che l'iniziativa è un D8. Devo cambiare l'interfaccia, è vero, non è D&D. Mi sono scordato, vabbè. Poi anche tu, conoscenze informatica? Vabbè, vi picchierete quando c'è da fare un tiro di informatica. Vabbè, ma dai, allora non mettiamo in formatica. Scusa, è vero, perché vuol dire... Già, non scegli tu, zitto. No, siamo noi a scegliere, infatti. Cioè... Vabbè. Ma che poi non ho capito, scusa, una cosa, lo so che mi rompo sempre, ma è giusto che uno metta la vita dell'altro, è simpatico, ma più che altro perché, cioè, se io so fare una cosa e te lo dimostro... Cioè, lo so fare. Non fare niente, già. Cazzo... No, il punto sarebbe che noi ti conosciamo abbastanza bene da poter fare un profilo di te, questo solo. Il punto è che con gli altri li ho fatte scegliere ogni persona ed è diventata una gara a chi era più power player, quindi dopo io ho dovuto limare i problemi e invece così equilibri. Manca un'abilità, Jacopo? Oh, io quando, cioè, qualche anno fa giocavo a basket, sono più una forte. Sono il pianoforte. Metti hobby, hobby musica, hobby pianoforte. Io ci posso stare. Anche serie TV, che cazzo ne so. Senti più confidente nella tua abilità da pianista o da conoscitore di serie TV? Tipo cucina, altrimenti. Anche cucina, assolutamente. Scegliete voi. Potete votare, che ne so. Ho detto videogiochi, poi... Basta. Videogiochi è un must. Quante ne vuoi? Tre. Videogiochi, conoscenza informatica e poi? E una terza, te ne serve una terza. Te ne manca una. Boh, così. Puoi mettere anche lingua tedesco, non lo so, scegliete voi. Ci può stare, sì. Ci sta. Come vogliamo vedi? Finire prima tutte le abilità, così dopo tiriamo i poteri uno dopo l'altro e facciamo... Va bene. Quindi adesso... Java. Quale metti, tedesco oppure cucina? Gava, di nuovo conoscenza informatica, che è quello sì. Poi che altro? Ah, il problema di Gava è che... sinceramente per Gava ci sta bene, più che videogiochi ci sta bene LOL, e ci sta bene che abbia un intiro di iniziativa aumentato per... Perché quanto è scarso? Per feed. Non è vero, non feed un cazzo, anzi. Sì, era gold, ricordiamo. Hai già perso prima di partire. Che lui era gold. Ma che dici che io ho fatto calcio 25-0 un altro po'? Fai gli stessi punteggi di Marco, cioè ormai è... Non è un complimento fare gli stessi punteggi di Marco. Lo so, non imparo un cazzo io. Dai, dite due abilità, Gara. Mancano due. Due abilità, Gara. Allora, potete mettere hobby videogiochi se volete. Io metterei quello, sinceramente. Va bene. Sì, uguali. C'è un motivo se siamo amici, cioè più o meno. Vabbè, gli interessi sono quelli. Vabbè, ma elettronica è resistenza e condensatori. Che schifo, che schifo. Analisi, so fare gli integrali doppi. No, direi che è l'esempio sbagliato. Sto pensando, cercando di ricordare quello che sto dicendo. Temere i conti, chi? In generale, da economia. Può avere tipo conoscenze Microsoft. Come si dice quello che è molto preciso? Sì, nel senso, lui ogni volta che si trova una situazione si scrive tutto preciso, sa già, capito? Cioè, ma quello era submentale. Studiare che non finiva. Quindi sa dire cosa era successo 3 giorni fa, tipo. È un disturbo mentale, però. Eh? Quello è un disturbo mentale. Ok, ci sta la verità di studiare. Allora, un punto da psiche. Sì, però puoi avere una... È come... No. Capito? Sono... Non c'è una verità. Se volete, potete mettere hobby... scribacchino, oppure prendo nota, oppure una cagata organizzato, oppure quello che dicevi tu, conoscenze Microsoft, se sai i dettagli del gossip dell'amico Gates, allora può mettere hobby Gates. Hobby Bill Gates. Ma già sta dire in camera, quindi cosa metto? Non so. Che quello che, no, quello che so di te è che ti piace, ti interessa della Microsoft, del K-pop o del J-pop, non so mai se... Vabbè, siamo un catalogatore. Ci sta, dai. Va bene, hobby, catalogatore. Non so cosa ora, vuole. Edo. Hobby. Edo, conoscenze di meccanica, si può dire questo? Sì, niente. Sta smontare e rimontare qualunque tipo di macchina. Sì, ma magari. Non è così che funziona la macchina. Ma che ha i motori. Io metterei che sta disegnare. Cazzo. Sì, questo è vero. Cavoli, ma mi ha sorpreso. Le sue abilità. Hobby disegno. Sì. Come mi pare. E hobby patinaggio anche. Vuoi mettere un videogioco? Il mio media adesso non più. Vuoi mettere un videogioco anche a lui? Boh, sì, dai. Cioè, no, decidete voi, io non posso dire niente. League of Legends, ma più specifico. Esatto. Quello ci starebbe di più a Gava, allora. Ma Gava non gioca. Marco, se conti le sue ore e le mie ore, penso che proprio sono due ordini di grandezza diversi. Ah, davvero? Non pensavo. Sì. Dai, proprio, cioè, una si mangia proprio la potenza del 10. scusa, però vabbè che non è uno sport adesso, però di pattinaggio ci sta. È proprio il mio momento, scusa. Puoi mettere anche sport pattinaggio. Ma sì, è proprio quanto devo mettere, scusa. Tre. Io ho già messo tipo disegno e meccanica. Due. La terza è sport, pattinaggio. A meno che tu non ti senti più di mettere videogiochi, perché con le ginocchia che hai adesso non vai più. Questa non è così sbagliata come osservazione. Vabbè, no, aspetta. Cioè, queste abilità vogliono dire che tu sai qualcosa di questa, però non che Vero. Tu sei un professionista. No, no, certo. Quindi in realtà sei una pippa uguale, per cui anche se metti videogiochi, sei comunque pippa nei videogiochi. No, no, bella, mettiamo pattinaggio, ho messo pattinaggio su sport. Ok. Allora, Gava, metti anche tu un D8 in... iniziativa. Non è che non mi sei un D8. No. Jacopo. Potere che non vuoi. Questa cosa? Perché per videogiochi. Io non volevo genetico e derivato, mi sembra, per convenienza. Sei sicuro? Boh, sì, dai, proviamo. Vai, tira un D8. Usando la comoda app che trovate sul sito RIPGDR. Esatto. È figo, adesso tutti voi tutti voi che avete detto non voglio questo e quell'altro BDB, quando avete tirato non avete mai fatto quello che avete evitato. 78. 78. Bravo. 7-8. Per che cosa? Ah, dai, potere cosa. Vabbè, non lo supererai mai. Per che cosa? Sessioni, generi, divini. Chiaro che non aveva scoperto lo suo potere dopo la prima sessione, boh, sì, no? No, era Edo che non aveva scoperto che poteva teletrasportarsi. Ah no, dici in Astractore di Edo. No, dico dell'altra, di Astractore di Edo. Perché ho forzato le cose alla fine. Ok. Oh. Ok, tira un D6. Un D6? Mm. 5. Bello. Questo è il difetto? Sì. Solo che non so cosa sia. Cioè, non l'ho mai applicato. Non peggio. Che vizio. Sono poteri genetici divini, psionici, derivati. Quello. Allora, psionici, derivati, genetici. Sta finito, perché erano 5? No, non è vero. Quali erano i 5 tipi di poteri? Genetici, divini, derivati, psionici e magici. Ah, magici, ok. Ok, okay. Mi dovreste tirare un D20. Okay. 12 e un D4. Mi fai il basso se fossi in te. 8-3. Oddio. Vuol dire che sei potentissimo. Forse no. Beh, effettivamente maggiore il difetto, maggiore il potere. Esatto. Boh, c'è una roba che non mi è molto chiara. È tutto falso. Ok, dovresti fare un ultimo tiro, probabilmente. Scusate un secondo. Però non so dove sia. Quando gli dice ti scrivi in disastro. Ah, qui. Quello fatto. Ok. Ah, ecco qua. Mi dovresti tirare un D10. Un D10? Due. Ok. Prossimo. Gava. Devo dire... C'è qualcosa che non vuoi pescare a caso? Allora, ripetiamo un po'. C'erano quelli genetici. Sì. Poi c'erano i divini, lo strumento. E magici. Magici. E magici. Non divini. Ok. Tiri un D8. Non divini? Sì. Come mai? Non vuole fare il power player. Divini è power player, non ho capito. Poi più o meno sì. 8. Sono un po' scettico. Ok. Mi dovresti tirare un D100. D100? D62. Un D6. 6. Ok. Edo. Un D8. C'è un potere che non vuoi? Sono crashate? No. Niente. No, scusa, colpa mia. Ok. A posto, scusate. Tirare un D8 e dirmi se c'è un potere che non vuoi. No. Allora, manco io, vero? Sì. Allora, io... Boh, eviterei... Puoi anche non evitare niente. Sì, poi in realtà, non lo so. Segui il tuo cuore, Ed. Ma no, va bene tutto, va bene tutto. Ma sì, dai. Un D8. Un D8. D8? Sì. 4. Ok. D100. Questo e questo. 31. Non ridere, master, no? Non ci fa intuire dopo. Guarda, ti dico solo che... No, vabbè, non dico niente. Cosa potrei inventare? C'è una sola persona OP in questa compagnia. E sono io e non farò assolutamente nulla. Mi chiamo di 4. D4. Dove è D4? Me la sono mangiato. Scherzando. Vabbè, tiro questo. Eccolo. Ah, è quello D4. Eccolo qui. 4. Bello. Dalla tua risata mi intuisco che sono una merdina. Oh? Cioè. Oh. Cioè sì, però. Cioè sì. Però non si dice. C'è quello di Gava che è un po' complicato. Ottimo. Cioè, in realtà no. Vabbè, ok. Allora, le schede così sono fatte. Grosso. Siamo, sono pronti. Ah, volete cominciare? Bello, bello. Pensavo voleste fare solo le schede. Sono le 10, cosa stiamo qui? Allora, volevo dirvi una roba prima. I punti esperienza in questo gioco vengono distribuiti a fine sessione, tipo Star Wars, e vengono distribuiti, figo, in base a interpretazione e ai punti che si fanno nel gioco. Interpretazione è quanto siete coerenti con voi stessi, fondamentalmente. Il gioco è... Malissimo. Se avete raggiunto gli obiettivi del gioco, ok. Il massimo sono 5 per ciascuno, quindi massimo 5 punti esperienza di interpretazione, massimo 5 punti esperienza per il gioco. Ovviamente è difficile avere 10, cioè è impossibile. È difficile avere 0 e saranno diversi per ognuno di voi in base a come giocate. Va bene. Boh. Allora, cominciamo con la prima sessione. Così. Oh. Avete qualche domanda? Per quanto riguarda... Solo siete pronti. Per quanto riguarda eventi della vita, contatti, cose così, sono i nostri. Cioè. Sì, dai, più bello sì. Così. Direi che potete interpretare tranquillamente voi stessi. Ovvio, se tu mi dici uso il mio contatto, che è il capo della polizia di Bologna... Già, un po'. Improbabile, diciamo. Intendi però lo zio Gianni. Se dici chiamo Salla perché è il master e mi fa un favore, ci può stare. Chiamo Salla perché è un bell'uomo e volevo sentire la sua voce prima di morire. Esatto, valgono le regole di paranoia. Se leccate il culo al master avrete una chance. Allora, direi che per comodità ambienterei, comincerei tutto nel futuro, tra virgolette, 17 febbraio, è un venerdì, penso. No, no, aspetta, aspetta, se vogliamo iniziare bene, 17 febbraio 2017, okay. È un venerdì. Credo okay, sia basta, un venerdì. Te... Probabilmente e... è un venerdì. Esatto. Interno, Casa Bianca. Siete tutti a Bologna, nelle vostre case di Bologna. L'altra cosa, l'unica cosa che sapete per certezza, sono due. Una, che oggi non avete lezione. Due, che stasera vi troverete tutti per l'inaugurazione di un locale in centro a Bologna. Ma se succede davvero questa cosa mi collasso. Non può succedere, siete tutti a Bologna, 17 febbraio. Perché? Beh, è plausibile. Marco? Io pensavo di tornare a casa più o meno in quel periodo, adesso vedrò. Dobbiamo farlo. Dobbiamo vedere se c'è un locale che apre a Bologna intorno okay. Al 17 febbraio. Comincerei, come ho sempre fatto, con voi che vi svegliate la mattina, nell'ordine tirato dalla vostra iniziativa, una alla volta. Ho fatto 3. Ho fatto 3 anch'io. 6. 2. Che stiamo tirando? Inizia di iniziativa. Manca uno. Complimenti. 5. Ma perché quella tirata di 8? Perché sono più bello. Quindi Edo, Gianf, poi uno. Io e Jacopo e poi Gava. Ok. Allora, devo controllare una roba di Edo. Aspetta però domanda un po' così, se devo interpretare me stesso comunque le bestemmie non sono consentite, sarebbe mettiamo il blip evitare, in post produzione mettiamo il blip in post produzione. Vabbè, scusa, devo controllare una roba del tuo potere. Ah, tu dormi con Gava, vero? Io? Nello stesso... Non lo sai, mi manca da dire, però... Con le dovute limitazioni, ma sì. Mi piace che hai risposto tu prima, di Edoardo. Io? Io? Io? Ti svegli no. Che sono più o meno le 10. Ok. E Gava sta ancora dormendo. Ok. Non hai dormito bene. Anzi, hai dormito proprio male. Dormivi insieme a Gara. C'era altro da dire. Era mai scontato. Continuavi a sognare di cadere nel vuoto. Essere la peperonata di ieri sera, probabilmente. Topi morti. Beh, ci sarà un'illusione sessuale. Come lo interpreterebbe Freud? Giulia, mi dispiace. No, non ce la facevo più perché non capivo quando parlavo del ciò che quando parlavo tra di noi. Va bene, chiusa questa parentesi, Edo. Raccontaci la tua routine mattutina. La mattina quando mi sveglio rimango una mezz'oretta nel letto a cazzeggiare col telefono, ok, a guardare minchiate eccetera. Poi con molta riluttanza mi alzerò, andrò in bagno, mi laverò la faccia e vado a fare colazione. Ok, non succede niente di particolare. Ok, quindi faccio colazione, che se ne dica una certa, prendo i libri e mi metto a studiare. Ti vorrei fare una domanda. Non è vero. Stai interpretando te stesso, Ed. Lo so, sembra strano, ma sto interpretando te stesso. In questo momento avresti voglia di giocare o di studiare? Avrei molta voglia di giocare. Ok, quello che succede è che tu studi lì su quel tavolo lì? No, sulla fine. Spesso si dipende, però. O qui o in camera. Ok, Gava sta ancora dormendo. Ok, quindi no, guarda, se lui ancora dorme, studio quasi. Quando ti stai per sedere lì, appoggi i tuoi libri, ti siedi, guardi il tavolo e non ci sono più i tuoi libri. Chi ha fatto il secondo tiro di iniziativa? Scrivo cose subito, guarda, one note varie. Io non so, vengo in questa casa, funziona sempre tutto bene, visto che allora la mia casa, come l'hai detto. Ti tocca? Jonathan, tocca a me, sto aspettando che mi dici che sono diventato immortale. Ok, Jonathan, anche tu ti svegli, l'unica certezza che hai... Mi svegli. Già che mi sveglio, sei stato un buon master, però. È che stasera andrai a questa inaugurazione di un locale in centro con gli altri. E ti svegli anche tu. E la cosa che succede è che svegliandoti c'è una cosa che ti continua a ronzare in testa. Fammi un tiro di mente. Sei nudo tra l'altro. Com'è la percezione che oggi ogni cazzata che dirai ti verrà un attacco di diarrea fulminante per volontà di 4 no 3 scusami, già me lo comincio a fregare. Ti sembra una parola. Mi sembra che ho sognato sempre una stessa parola, ma che non mi viene il nome, ce l'ho sulla punta della lingua, questo dici? Sì, esatto, è una parola che c'hai sulla punta della lingua. Ok, fai la tua solita routine mattutina, che non so quale sia. Ho un po' paura a chiederti qual è. E c'è la scena della porta del bagno che si chiude e poi si sente proprio tipo, che si chiude tipo chiave, lucchetti vari, uno, due, tre, quattro. E poi entra da tre gambe dentro la stanza e vista sta e senti fare pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Non funziona. Alla casa, un giorno. Ma basta, mi frega uno dei vostri denti, che mi danno di qua. Avete più penne del surface che penne con il chiostro. Guarda che... Questa è la tua routine mattutina. Qual è la tua routine mattutina? Io? Pensavo che eri serio quando avessi andare in bagno a fare così come mani. Aspetta, puoi mettere in pausa lo streaming? No, mi sveglio in orari decenti, nonostante tutto. E mangio, di solito mangio un bel pezzo di torta al latte o tè, dipende dalla giornata. Poi... un cazzo, poi mi metto nel computer. Dopo che mi sono svegliato, che ho mangiato, mi sono lavato, perché dai, diciamo... Ma metti davanti al computer? Ok. Muori. Ti ricordi questa parola? No, altra cosa che può sembrare assurda perché non mi conoscete, vedo le notizie, vado sempre su MSN News. Cioè, quelle sbagliate MSN News. Sì, infatti, per quello che fa. Guarda, c'è un nuovo supero in giro. Certo. No, quando ti metti al computer, sembra che quella parola si faccia un po' più vivida e tira un dado di mente. Un altro. Proprio ce l'ho uno. Proprio ce l'ho l'altro. E invece ti sei sbagliato, cavallo. Ma no, non è cavallo. A un certo punto gridi palla fitta, ma poi cambi idea. Ok, a chi tocca? A me e Jacopo contemporaneamente. Sai. Uno dei due, però. Vai, prima lei, signore, prima lei. Ma no, ma sa... No, vabbè. Vado in bagno un attimo mentre Jacopo pensa a quello che fa stamattina, perché sarà abbastanza doloroso la sua risveglio. Cosa? Marco, hai creato... Va bene. Io non mi voglio svegliare vivo stamattina. Sai che dobbiamo fare per la prima puntata? Facciamo tipo, giriamo dal vivo queste scene. Sì, fantastico. Cioè tipo giriamo Edoardo che si sveglia, porta i libri, poi i libri scompaiono, Giampa che tipo entra in bagno, chiude a chiave e poi si sente dietro la porta. Esatto. Poi facciamo vedere dentro il bagno e c'è lui che sta facendo così con le mani. No, è più della serie... Oppure con quello no. Facciamo tipo con la tecnica da vita da strega per far scomparire i libri. A un certo punto fermiamo la distrazione con Edo immobile, togliamo i libri, poi la rifacciamo ripartire. Come facevamo i nostri stupidi video al liceo. Esatto. Vedo Marco, allora, vuoi risparmiarmi questo... Ma tanto ti dovrai svegliare prima o poi. Jacopo, ti svegli? Sì. Mi svegli. No, forse era Marco quello che aveva la cosa dolorosa. Ah, può essere. A me va bene. Ah, no, sei tu. Va bene, mi sveglio. Ti svegli? E quando ti svegli riposato, sì, però hai un fastidio alla schiena. Lo sapevo. Lasciate l'ernia del disco. Accidenti. Niente, provo ad alzarmi. Ti alzi, no. E il fastidio scompare. A posto, cioè, che problema c'è allora? Scusa, hai messo il tempo di vestimento nella schiena. Ah, è vero. Tu dormi vestito? Dormi vestito? Sì. Ok, il fastidio scompare leggermente. Mi controllo dietro. Cioè, tipo si sente tipo i vestiti tirati addosso, magari? No, oh. Dà un po' fastidio. Ok. Mi controllo la schiena, cioè cerco di... Vado in bagno, mi controllo dietro. Ok. Ma che punto è la schiena? Sto scrivendo un attimo un messaggio, te lo dico dopo. Per andare in bagno devi passare nell'ingresso e quindi Edo, che è già in sala a studiare, ti vede, no? Esatto. Sì, però puoi salutarlo. Edo gli chiede dove sono i miei... Hai visto i miei libri? Mentre lo saluti, non vedi più i tuoi libri. Jacopo, vai in bagno, guardi la schiena. Sì. E vedi che sotto la maglietta... Hai tipo qualcosa. Sono un altro. No, un porzione, sono un porco spino. Mi alzo la maglietta. Cioè, il pigiama, vabbè, quello che c'ho. Con cosa sia. Però vogliamo il master concentrato, perché sennò cos'è sta? Attenzione questa. Attenzione. Vedi che piccole, cioè sono grandi così. Sì. Proprio piccole. Vedi come due alette. Sei un punto. Come se fossero ali delicate, sembra quasi farfalla. No. Però è strano perché sono molto sottili, per cui sotto la maglietta si vedevano appena, cioè si vedeva che ce l'avevi, ma non tantissimo. Quando sono alte? Sono un po' grandi così. E a quel punto dice, ah ok, no, tutto normale, però, ma condizioni come se fossero sottilissime, capito? E a quel punto ti tranquillizzi perché c'erano anche prima e quindi non... Fai attenzione, vedi che leggermente sembrano muoversi, ma non tanto, leggermente. E insomma, le puoi toccare. Cioè, provo a toccarle. Cioè, ti sforzi un po' con la mano dietro la schiena, le tocchi, hai sensibilità. Sembrano molto delicate, ma non... Cioè, non sono fragilissime, però... Non sono neanche ali tipo pipistrello. Cioè, effettivamente, somigliano ad ali di insetto, da pipistrello, da uccello... farfalla. Ha proprio ali da farfalla. Esattamente. Okay. Jacopo... Sei una bellissima papalla che poi dire. Sono una bellissima papalla che per ora sono il più favoloso dei sicuramente. Però ecco, prima sotto la maglietta non è che l'avessi vista perché sono molto sottili e quindi si appiattiscono dietro la schiena. Io urlo che cazzo, tipo... Edo da di là senti che cazzo. Tutto normale in bagno, di solito Jacopo immagino che... Urlo sempre, cazzo. Sì. No? Mi stupisco il mio pene. Vai, va. Jacopo deve fare altro o vado io? No, vai tu. No, vai. Ok, allora io sono a Bologna probabilmente perché la sera prima abbiamo fatto una sessione di D&D. Ok. Quindi sono a casa, sono a dormire a casa da mia zia, quindi mi alzo, la mia routine, e poi vado in bagno. Sì, una cosa, come dormi vestita tu? Io con un pigiama, non posso, normale. Ti alzi, vai in bagno. Insomma, espleto i miei bisogni, mi lavo la faccia di solito, poi dopo okay. Saluto mia zia e vado a fare colazione. A un certo momento, tu ti sei guardato i piedi. Ok. Ecco, i tuoi piedi. Uh-huh. E questo ti ricorda le sessioni di Unstructure e Diros? Questo probabilmente palmati. L'avrei fatto quando mi sarei messo le ciabatte. Probabilmente. Ok. Palmati. C'è una leggera membrana tra le dita dei tuoi piedi. Mm. Ok, questa è nuova. Mi dovresti fare un tiro di psiche, che dopo mi farà anche Jacopo. Sempre. Mente, no? Sì. Ho fatto uno. Però che sei, quindi... ti impanichi e basta. Ti impanichi tantissimo. E cominci a sudare, ti agiti tantissimo. Ok, probabilmente a questo punto mia zia, che è iperapprensiva, mi sente e viene a chiedere in bagno se va tutto bene. Dico... Va tutto bene? Sì, non entrare. Va bene. Abituato. È tutto a posto? Sì, a posto. Adesso esco, quasi fatto. Dammi un attimo. Non è più, non so. Sono agitato, però non voglio minimamente farla entrare a vedere. Sta. Altro? Cerco di calmarmi un attimo e di capire cosa può essere. Ah, è questa membrana tra le dita dei piedi. Ok. Taglio via. No, probabilmente dopo averci ragionato un attimo dico... Ok, io sono... La cosa degli Heroes è comunque conosciuta, cioè nel senso si sa che ci sono le mutazioni in giro. Sì. Che possono avvenire, non che possono. Però sono molto rare. Sì, ok. Quindi, la mia mente probabilmente non va subito a quello, però dire... Ok, per adesso magari fai un salto in ospedale dopo, adesso vediamo, calmati un attimo, intanto non mi sembra di stare male fisicamente, no? Non mi sembra di... No, anzi, ti senti bene. Ok. Un fastidio alla gamba. Alla gamba? Sì. O quale gamba? Alla gamba destra. Alla terza. Il resto è tutto a posto. Ok, provo tipo, visto i piedi palmati, provo a tirare su, tolgo i pantaloni e il pigiama, vedo cosa sia la gamba destra, segni visibili di... No, tutto il resto è normale. Ok, salta! Per ora salta. Mi calmo un attimo e magari mi rivesto con i vestiti normali, poi dico, esco e dico, magari conviene se faccio un salto tipo all'ospedale... Dico a mia zia, probabilmente non mi riesco. Ma è tutto a posto? Sì, non mi sento troppo bene. Andavo ma a fare magari anch'io? No, dai, faccio io. Non ma sei sicuro? Guarda, sei uguale a mia zia, se me lo chiederebbe tipo 6-7 volte. Sì, faccio. Vado io, non ti preoccupare. Tranquilla. Va bene, poi chiamami quando hai fatto. Non potevo mettere la conosci, cioè sei guarda no, sei... però immagino che sia così. E quindi niente, okay. mi vesto e poi esco e prenderò un autobus per andare all'ospedale maggiore. Ti svegli sentendo Jacopo che urla in bagno. Deve fare anche Jacopo il tiro di psiche. Sì, fammi un tiro di psiche io. Sei? Bene, sei un po' scosso ma... C'è il sangue, c'è il ghiaccio nelle vene. Vedo sempre un paio di anni. Ok, Gava. Che senti cazzo urlo? Che vabbè, cazzo? Dai, normale routine. Metto una maglia e aspetta, poi vado in. Niente. Metti una maglia e poi vai in cucina. E c'è Edo che si sta guardando intorno un po' scosso. Prima non vedeva i libri, secondo perché ha sentito, ma che cazzo. Dico, ma... quindi sto venerdì 17 inizia proprio bene. Tra l'altro, cioè, è l'unico che ha fatto il collegamento, complimenti. Te l'ho detto che lui è catavola tutto, cioè i giorni per cui catalogare. Parlando con Edo si rende conto che Gava non ha più la testa. Faceva, vabbè, normale amministrazione. Non ce l'ho mai avuto. Aspetta, ma poi faccio il pacco. Che Gava è blu. E ora mi può dire che cosa fa. Sì, può anche interagire con le altre persone. Sì. Niente, vado a farmi un tè, prendo la brioche, torno da Edo e chiedo se sa cosa sta succedendo, cioè tipo che succede, cioè cos'hai. E dico, Jacopo sai al solito, sta ridendo qualche video su YouTube. Io gli dico, però penso di avere qualche problema. Ero sicuro di essere venuto qui con dei libri, ma non li trovo più. Però considerando quanto sono incoglionito, li avrò lasciati in camera. E torno in camera. Ok, vai in camera e mi fai un tiro di cercare. Riflessi. 4. Io ce l'ho tutti in distanza, non c'è il mio perché sono speciali. Cosa c'è di speciale di là? Tu perché sei così speciale? Non vedi nessuno dei libri che avevi portato di là. Vabbè, con il mio solito penso, vabbè, ma tanto sono io che sono rincoglionito e mi metto a cercarli per tutta casa. Questa è una storia realmente successa, però. Sì, voglio dire una cosa se... Qua. C'era già la sorella di... Ah, sì, beh, ci sta. No, ti ha salutato, cioè ci ha salutato. Ok, non li trovi da nessuna parte? Se non che quando Gava ti chiede che cazzo stai facendo... Tu ti metti lì nel tavolino, fai i miei libri, li avevo messi qua e ce li hai in mano. Allora io gli faccio buongiorno. Intanto immagino che Jacopo faccia qualcosa. Io sto scherzando tantissimo. Ok, cioè, un tiro di controllo. stai tipo furiosamente col cellulare su Google, mi sono comparse ali sulla schiena. Uno. No, dai, non mi puoi fare uno. Questo è il momento topico, cazzo. Va bene. Ok, e dicevi a proposito di sclerare? No, niente, sto sclerando tantissimo. Niente. Oh, che cazzo. Che... Non se ne accorge il volo. Provo tipo a tirare a vedere se. Come ne so, se sono incollate, non lo so. Cosa è male quando tiri. Ok. Quindi tu sei speciale che c'è il dio. Niente, esco un attimo dal bagno e faccio e mi giro e dico ma avevo anche ieri queste. Ma esci senza maglietta? Cioè ce l'ho tutte davanti, tipo l'ho tirata dietro, nel senso dietro sto con la schiena scoperta, cioè sto solo davanti. Ah, okay. Cioè sto tirando. Sì, sì, abbiamo capito. Però puoi farlo se per darci piacere di sì. No. Tu non ci sei. Io c'ho una webcam qui. Non è così reale. Non è così surreale questa cosa. A Gava non succede niente al risveglio? Non... No. Non ha tipo emicrania fulminante. Gava è proprio. perché devo rompere le palle a me? Ok, dicevo, scusate, voi vedete le ali di Jacopo e fate un tiro di psiche. Ovviamente io no. Tu non le vedi. Quindi. 4. Oddio, mi si è andato a stellare. Pronto. Era un dado normale intanto, Gava. Ti fossi preso un surface. Dimmi che devo tirare. Facciamo un saluto all'unica persona che scrive in chat. Perché è avvertita della diretta. 3. Come? Ho detto facciamo un saluto all'unica persona che scrive in chat di YouTube perché è avvertita della diretta. Esatto. È un piacere averti qui con noi. Scusa, hai fatto, Gava? 3. Vabbè, e insomma, perdete entrambi un punto psiche. Ah, ecco, psiche. Scusate. Cioè, entrambi. Tutti e tre? Tutti e tre. Cose che non sono cose. Effettivamente a Gala dovremmo togliere la conoscenza dell'italiano perché non ne sa molto. Comunque perdete la punto psiche e cominciate a agitare parecchio. E intanto vorrei sapere Jump cosa sta facendo. Io? Tutta la mattina. Vabbè, secondo te perché sono davanti al computer? Ti sei messo a guardare notizie? Poi che il computer, schermo 4K. Vedi che c'ha a fianco alla scrivania c'è tipo la bagnetta con le tacche. Ho visto le notizie, non lo so, apro il mio classico sito che apro ogni mattina, di appunto Days, vedo se ci sono nuovi aggiornamenti da parte di prof. Ogni tanto metterò le nuove slide, le guardo un po'. Studio un po'. Sì, non fare quella faccia. Guarda, io guardo le slide, non guardo Wikipedia. A febbraio però non mettono le slide, è periodo di esami già. E poi faccio una partita a LOL. Ok, quando vinci LOL, mi potresti fare un dado... Tirare un dado controllo? No, anzi, scusa, mente. Vabbè, è la stessa cosa. Sono sempre di 6, Gianfranco. Era per dare un... Sì, no, lo so, però... 6! Ho il pieno controllo della situazione. Sai che ti stai connettendo su LOL e ti ricordi quella parola che avevi sognato? È una parola stramba che sembra non avere senso e che puoi anche inventarti in questo momento. Super calibratissimo che spirali tosso. E mentre la dici Jumanji e mentre dici Jumanji e altre parole che hanno un po' poco senso. No, non mi sono preoccupato. Cosa accade? Oddio, che ansia, te la smetti come si di bello. La parola Jumanji, tu esplodi. Scusa, con che computer stai giocando allora? Ovviamente col mio Lenovo, che ha una 850, una GTX 850, 8 GB di RAM, processori 7. Seriamente? Sì, col mio portatile, cioè te l'ho descritto. E touch, se può interessarti. Che ne so, guardi, che ti... pronunci questa parola, guardi il tuo computer. Cazzo, non ti sembrava di aver speso così tanto per un computer? È un super Alienware, super uppato. Wow. E ti va su LOL a manetta. 1000 FPS! Non laghi più! Non laghi più! E niente, quindi la mia reazione è... Cazzo! Ma non mi ricordavo che avevo fatto questo bel affare ieri quando sono andato su subito.it. Oddio, è stato un buono spago. Mediacom per l'audio. Mi ricordo che avevo venduto il vecchio Mediacom. Evidentemente l'ho venduto a più di quando pensassi. Mentre sei lì che sbavi, mentre sei lì che sbavi, e c'è il computer torna normale. E faccio un sistemazzo. No, devo rivederlo subito. Allora cerco di concentrarmi al massimo, cerco di rilassarmi per quando posso, perché c'ho ancora un po' di eccitazione, ovviamente. Come quando arriva un pacco da Amazon che non sai che cos'è. Cosa che succede? A me capita, perché non mi ricordo mai quello che prendo. Però cerco di rilassarmi, di concentrarmi, e cerco di rimmaginare ogni dettaglio che mi ha fatto, capito, scappare di gioia, che ne so, tipo la tastiera retroilluminata di vari colori, il simbolino del coso dietro, e cerco di concentrarmi a massa su questi dettagli che sono le tamarrate che piacciono a me. E preparo l'iPhone per fare delle foto per vendere subito le cose. E poi? Bellissimo. E poi? E poi mi sveglio, perché tanto succede sempre così nella mia vita. Le cose belle sono sempre i peggio incubi. Manca ancora qualcosa. Mi sono concentrato, ho pensato a tutto. Le foto ce l'ho. Ah, l'annuncio su subito. Ce l'ho. No, a parte gli scherzi, che devo fare? Dopo che mi sono concentrato, Jumanji, ripeto! Il tuo computer torna come prima. Sì! Sono potentissimo. Cazzo, io ho detto che se lo volevo era la psiche, guarda tu che cazzo mi ha capitato. Allora, perdi un punto fatica. Io mica mi sono stancato a giocare. Non so, di fatica quanti erano? E vedi sono che... cumulativi, sono partono da zero e... Sì, si accumulano. E vedi che dopo neanche un minuto il computer torna normale. Questa cosa dura veramente poco. E mi serve un minuto per fare la foto. E quindi mi sento pure un po' stanco. Sì, un pelino stanco, sì. Ecco, il giramento di testa che mi sono concentrato, questo dici. Esatto. Ci provo. Quando provi a leggere per più di 10 minuti. Esci di casa. Ok, io esco di casa, sono ancora un attimo scosso, però dal percorso da porta di casa alla fermata dell'autobus cerco un attimo di riprendermi, di pensare un attimo a cosa può essere successo, perché voglio dire, ieri sera mi ricordavo di non avere i piedi palmati quando sono andato a dormire, probabilmente me ne sarei corto, spero. Quindi provo a ripensare tipo alla sera prima, se mi può essere successo qualcosa. No. Ok, allora, probabilmente a questo punto mi dirigo sì all'ospedale, però ovviamente farei anche una ricerca su Google, perché... Piedi palmati. Esiste una malattia genetica di qualcuno che nasce con piedi e mani palmate dalla nascita. Mm-hmm. Okay, continuo la ricerca tipo aggiungendo la parola acquisiti, piedi palmati acquisiti o... non dalla nascita o robe del genere, cose così. E nel frattempo cerco ancora un attimo di pensare al da farsi, ancora non sono ancora del tutto sicuro di voler andare in ospedale per questo, perché... puoi decidere adesso mentre vai. Intanto prenderei la fermata dell'autobus e poi deciderei se andare oppure no, adesso vedo. Ci vuoi pensare? Vorrei pensare tipo, è successo qualcosa ieri sera o niente, può spiegare... allora già che ci sono magari provo anche a mandare un messaggio agli altri, visti che sono le ultime persone che ho visto, se non so se anche loro stamattina si sono svegliati con qualcosa, che tipo con piedi palmati per esempio. È stato colpa della pizzeria evidentemente. Perché non vorrei che avessero messo qualcosa di scandaloso nella pizza. Quando sei stato pizza nucleare. Se state ascoltando Apollo, io sono con voi, premetterò sempre da me. Sono le ultime persone con cui ho avuto contatto, quindi... Andateci pizza gratis. A rigor di logica, se è successo qualcosa, è successo qua. Sentite una chiamata, qualcuno di voi tre, una chiamata di Marco. Probabilmente proverei a chiamare prima Jacopo, perché è quello di cui... Poi non so se Jacopo risponde, visto la situazione in cui si trova. Sì, vabbè. Vabbè, io sono un po' così scosso, però rispondo lo stesso perché non è rilevante, quindi cioè... Pronto? Ehi, come va? Una cosa, senti, stamattina da voi tutto bene? No, perché io... anche tu devi svegliato... farla per caso? Mi sono... È una metafora o... No, io ho delle letterali, reali, cazzodiali di farfalla. Oh, ok. Siete a casa? Posso venire lì un attimo? Magari... Ok, allora invece di andare all'ospedale prendo l'autobus, saluto, metto giù e poi prendo l'autobus per andare... Okay. A casa loro. Nel frattempo vedete anche una foto che vi arriva da Jump nel gruppo di LOL, con lui che manda la foto del suo cazzo di computer. Cazzo, e lì abbiamo il sempre... Sei un puttuto Jump. Stavolta ti sei superato, bravissimo. Ok, voi tre. E a quel punto mi ricordo che ieri sera abbiamo ordinato la pizza da i fratelli Chernobyl e allora mi viene qualche sospetto. Voi tre. Io sto col telefono ancora in mano, sto parlando con Marco, penso, no? Sì, io ti ho appena salutato, diciamo. Io mi trovo esattamente nella posizione in cui sono ora, così, guardando verso il muro e cerco di pensare. Federico, aspetta, tu hai fatto? Io vado in camera, accendo il computer e vado su HDblog. A vedere se hanno risposto. Aspetta, tu eri venuto qui a farti vedere le ali? Sì. È vero, esatto. Allora, vediamo dove uscite Alietech. C'è lui che esce con le ali e c'è Gava che fa bene. No, vabbè, dico vabbè, al giorno d'oggi è normale, dico, poteva capitare di peggio. Sì. Cioè, poteva essere un tatuaggio a forma di farfalla sopra le casse. Come se tu vedi. Sì, ma non è un cazzo di tatuaggio a spogliare lì, sono delle cazzo. Ma finta che tu la mattina ti svegli e vedi lui che tipo di sì, ma io voglio vedere la gente al mondo. E dici, ma io posso vedere fuori la gente che vola perché ha il superpotere. Ma no? Non è che tra le tue che rari, cioè sono extra rari. Tutti i giorni tu vedi Tom Cruise. Ah, ok. Poi è probabile che se quelli che li hanno, forse la cosa dei loro difetti lo tengono anche abbastanza segreta. Sì, no. Cioè allora, nessuno con le ali. Tu dici, oh, ma sei uno di quelli! Esatto, vabbè, già questo sì, questo c'è tempo. Tu... Chiamiamo la polizia! il diavolo! E allora, io dico, oddio, no. Non lo so, com'è possibile? Ma anche voi sta succedendo qualcosa di strano? Tipo qualcosa che abbiamo mangiato ieri sera? O... Io sto bene. Non so se sono deficiente, probabilmente sì, ma a me sono scomparsi i libri e sono riapparsi da un momento all'altro. Ma no, Edo, tu sei un bravo mezzo addormentato, dai, su, Marco, non mi ha appena lasciato intendere che anche lui è qualcosa che non mai sta venendo qui adesso. Ah, ok. Allora io prendo il telefono, chiama... Io prendo il telefono e guardo la foto di Jump. Si è inventato qualcosa di allora, no, è più veritiero che voi invece che pensate che sia superpotere, dice cazzo che culo che ha avuto sta esatto, esatto. Infatti io scrivo nel gruppo di LOL, anzi no, scrivo in privato a Jump e gli dico vieni immediatamente qui, fammi vedere il tuo nuovo computer. E lui viene con tipo il tablet da no pezzetti. Allora io scrivo ma è un Alienware, tipo un coso cinese che ha copiato l'Alienware, che ha preso tipo a 50 euro. Ah, bellissimo, ci sta assolutamente. Sono ancora più probabile di subito. Tipo, l'alieno è verde e ha le antenne sul retro del computer. ecco qual è il potere di Jump, la cineficazione di me. Cinesificazione. Cazzo! Qualsiasi cosa tocca diventa cinese. Sarebbe bellissimo. Sei tipo un Midas, però un sì, sì, Midas. Marco andrebbe giù di testa per sta roba qua. Non Marco, lui, immagino. Ma per la vera, la vera passata. Oddio mio, sarà super. Io, vabbè, io comincio a fare più tu, ho visto la, cioè, tu hai visto lui. Ho visto Jump, Marco mi ha chiamato. Ma nessuno ha visto a me, io ho visto soltanto. Cioè, no, vabbè, hai visto una foto sospetta. No, per me è normale quella foto. Io scrivo un messaggio su WhatsApp a Salla. Ah, quindi Salla esiste? Io, cazzo, il mio su. Bellissimo amico. Mio... Salla non esiste in questo mondo. Salla è una leggenda. Salla si narra. Che... No, no, ci sta. C'è qualcosa che non va? Qualche strana. Rivelazione, qualche strana. Cioè, non so. Così. Su WhatsApp è successo qualcosa stamattina, tipo di strano a te? A me? No. Però vi consiglio di andare all'inaugurazione dei locali di stasera. Grazie per il consiglio, Salvo. No, lo so davvero, non sto scherzando. Scrivo davvero io, così. Io tipo a Luca e a Sara, cioè dicendogli tipo boh, Jacopo caso... Leali foto. Jacopo Leali foto. Esattamente, Jacopo Leali che quindi lui stanno succedendo cose strane, cioè no, tutti comunque io ti rispondo davvero così. Ti consiglio di andare all'inaugurazione locale stasera. Ah, davvero? C'è un game proprio. Sì. Ah, io dico io ok, tipo notiamo un tono sospetto in questo messaggio. No, lo lui. Lo so, era per dire. Lui nota un tono sospetto in questo messaggio. Cioè, è sospetto che io ho detto guarda, stanno facendo cose strane, e lui mi dice vai alla rivelazione stasera. Sì, sì, è molto classico. È un po' proprio da fine. L'ha previsto stasera. Voi è da un bel po' che questo non in gioco non ha eventi correlati. Ma è da un bel po' che voi non sentite notizie di Vez e Giulio, Arci, Sceo, Ema, sta gentaglia, i miei amici. Io manco li conosco. No, vabbè, lo dico a voi. Sì, lo so. Ok. Vabbè, questo out of game non... Qui tipo su Facebook, Tycoons and Dragons, niente, cioè... Niente, che sono antica. Peccato, è un bel podcast. Anch'io allora scrivo a Luca, Eliana, gente, comincio a dire... La gente mi risponde come se prendesse per pazzo, sinceramente. Ok, cos'è? Tranne Salla che ti ha risposto. Dai, ma aspetta. Ok. Io intanto sono, cioè ormai sono quasi per arrivare da un po'. Suona Marco. Io intanto tipo ho scritto a mia zia che mi sentivo già meglio, che ne approfittavo per fare un giro per Bologna mentre ero già fuori, per tranquillizzarla. E intanto poi ho cercato di nuovo su Google ali da farfalla acquisite. Non trovi delle cose inquietantissime e disturbatissime, come se cercassi adesso su Google ali da farfalla. Va bene, fammi fare un... Lascio entrare comunque. Ok, suona Marco. Lindrum. Ehi, no, beh, infatti, arrivo su. Se qualcuno ti apre, immagino, sì. Spero mi aprono, che non vogliono... Sì, ma ti ho detto, vado ad aprire. Ehi, mi sembra di capire che Jacopo non stia benissimo, forse? Cioè, era un po' confuso. Sono anche io. Dice a me o Jacopo adesso? A Jacopo. La maglietta, immagino. Sì, mi sono messo giù la magnetta. Non so proprio bene. Vabbè, non, sono sicuro, non sono sicurissimo di aver sentito bene al cellulare, perché non... No, erano... io ho capito ali da farfalla, ma... Io ho capito ali da farfalla, però non... Io mi giro e gli faccio delle ali. Oh! Ok. Avevi sentito bene. Tira. Sì che... Cazzo, fa più la fede, appena mi avvicino a uno gli faccio delle ali. Sì. Un po' meglio, oddio, sono già un pochino più. Scusate. Mi aspettavo anche un po' l'inaspettato ormai a questo punto. Esatto. Perché... Che sbatti e fai che faccio che a questo punto anch'io dico. Vabbè, non lo so. Sì, anche stamattina non mi sono proprio svegliato al 100% e mi tolgo una scarpa e un calzino per fargli vedere che. Cazzo! Tipo... Io ti schermo se quel computer ha almeno un giga di RAM. Almeno per me questa situazione non era preesistente. Non posso dire la tua, cioè non conosco la tua storia familiare. Di... Immagino neanche la tua fosse preesistente. Di... Va bene. No, con le ali da farfalla. Quando sono ansioso cerco sempre di sdrammatizzare un po'. No? Riuscendoci poco. Ok, quindi... Hai visto Giovanni? Io? Sì. Ah, beh, Gavan mi manda un messaggio con scritto quel computer ha un giga di RAM. Risponderò, ce n'ha ben 64, e mo me lo porto a far vedere, perché domanda me l'aveva detto. Okay. Allora prendo il mio... Anzi, prendo tipo il tablet, perché ho detto, cazzo, penso meno del computer, sto solo quello che mi pare. Lo prendo, lo metto nella borsa e vado attraverso la strada. Arrivi pochissimo dopo Marco e suona. Io intanto sto tipo parlando un attimo con Jacopo. Ok, restiamo un attimo calmi, pensiamo un secondo. No, ma proprio subito dopo suona okay, Jeff. Quindi ci incontriamo nel pianerottolo, lui suona e io entro insieme a lui. No, lui è già entrato, però è entrato da prima. Mi ha anche tolto una scarpa e così. Sì, esatto. Ok. Mi aprite? No. Con cosa provate? Sì, dai, li apriamo e sale. E sale... Ah, ma c'è anche Jump, quindi anche lui non... Anche lui si è svegliato con una roba del genere o... Così. No, sì. Cazzo, un altro problema alla mente. Questo lo chiedo a Jacopo, perché io non ho idea del perché Jump sia venuto. Quindi anche Jump si è svegliato con qualcosa del genere o... No, io questo computer l'ho comprato onestamente. Mi giro, cerco di concentrarmi al massimo e ripeto sottovoce la stessa parola che mi veniva sempre in mente. E cazzo, tablet hai detto? Sì. Ok. E quindi c'ho tipo ora, Surface. Esatto, ora hai un Surface in mano. Tada! Anche io e poi faccio per forza, se la faccio una volta tutti quanti insieme che ci avevo tutti quanti Surface. Io lo ignoro malamente perché decido di ignorare. Sarà bellissimo. Sono leggermente poco interessato al computer nuovo di Jump in questo momento. Io invece lo guardo molto bene. Aspetta, ma mentre mi giro guardo China, tipo. Tipo che invece di una finestra c'è tipo una porta. Capito? Surface, c'è la door, c'è la Windows. Perché è funziona così. Ma io le vedo le ali tue. No, sì, perché la maglietta. Una cosa, tu glielo fai vedere e poi quanto lo tieni a loro visibile? Cioè questo è il tablet. Ah, il tablet. Fammelo vedere. Grazie. Mi spero più senso. Ok. Caccialo fuori. Quindi gli tiri fuori il tablet. e per, sì, e tu sai che dura poco tempo, cioè l'ultima volta è durato poco tempo. Sì, tipo una sì, sì, ma adesso c'è la batteria quasi scarica, quindi lo richiudo e lo rimetto subito dentro. Ok, voi fatemi un tiro di riflessi. Di riflessi? Ok. Sì, ma lo faccio vedere tipo, oh guarda, tanto non c'è come, cioè non è che li metto all'altro. Sai? Merda, Gava e... Sei! Che cazzo, quasi okay, tutti voi due, solo voi due, Gava e Jacopo, mentre lo sta mettendo via, notate una sorta di luce che... cioè una sorta di flash mentre sta mettendo via il tablet. E basta. Okay. Oh, ma hai preso un'altra cinesata e la batteria sta per esplodere. Faccio... Ah no, no, mi è arrivata una notifica sull'iPhone, ho messo la notifica LED. Va bene, Giampe, lasciami un attimo, un attimo Jacopo. Cioè, ti voglio troppo bene, sei proprio un amico, si vede che ti interessa la novità del momento. Sì, sì, come scusate, dici tu. Giampe, perdi un punto fatica e mi devi fare una prova di fatica. Porca puttana, che cazzo, una volta fa questo stronzo. Com'è la prova di fatica? È un tiro di forza. Fisico. Sono potentissimo! Uno! Pensavo di stremare le porte per aver fatto questa cosa. Vabbè, ci sta però. E adesso questa cosa la senti la fatica stavolta? Sì, è quindi, stato parecchio sto giochino qui. Quindi perdo più punti? Come funziona? No, non perdi niente, però senti, avverti la fatica, ti stanchi. Quindi devo fare tipo 3 punti fatica, ciò? Cioè? No, no, due. No, hai 2 punti. Senti che sei fatto. Ah, ok, funziona così qua. Sì. Okay. In tutto questo, io cerco di prendere un attimo Jacopo da parte. E... ok, siamo calmi un attimo, quindi. Prima di andare a farsi curare, cosa abbiamo fatto noi due? Perché direi che questa cosa è collegata, non penso che siano proprio una casualità. Ma questa, che ci fai qua? Sei venuto a trovarci? Beh, quando ho fatto vedere... quando mi hai mostrato Ali e tutto, c'erano anche loro nella stanza. Ah, ma ha fatto tipo così, sì, e l'ha fatto vedere la stanza. Cosa c'aveva? Piede palmato. Ma tu non l'hai visto dopo. Non ho visto il tuo piede? Ma io del vero di te non so neanche che sai delle ali di Jacopo, quindi non ne ho parlato con te. A nessuno fotte di me, e quando pare a me non mi fotte niente di nessuno. Io ho fatto... lui ti ha accolto, io ti ho visto il tablet. Io ti ho dato la soddisfazione di far vedere il nuovo prodotto. Così sanno che non sono un poveraccio che vado in giro con i tablet e dici... Marco, proviamo a pensare, tipo, ieri sera... Quindi, cioè, più che altro è strano che siano solo noi due che ci sia successo qualcosa di strano, visto che eravamo qua tutti insieme. Non... Ma di cosa stai parlando? Giappe, ma per favore, un po' di privacy, un secondo, allora. Posso concentrarmi su Marco, tipo, non lo so, e diventa anche lui un Aniwer? Tipo la scena, John, sì, mi sento un Aniwer. Io? Capisco che intendi. Lo può fare quindi o... Che cosa? No. Scusate, mi sono perso. No, ho detto, siccome Marco continua a ignorarmi in modo scortese, io mi sono molto sensibile oggi perché mi sono svegliato strano, e quindi mi concentro su... invece. E ripenso all'animer e ripeto sotto voce Jumanji. Divento un animer. Ma chi? Marco? Sto cercando di trasformare me in un Alienware. Io voglio trasformare... Non hai nessun effetto. No! Niente da fare. Sento tipo un tremolio ora. Sì, mi sento tipo stanco. E io mi siedo comunque sul divano. Anzi, sulla poltrona che sta qua, e accendo la televisione. Aspetta, non si fa qualcosa di strano. No, tu hai qualcosa di strano, raccontami. Vabbè, no, aspetta, a questo punto sono tutti presenti quelli che c'erano ieri sera, praticamente alla famosa partita di D&D. Sì, manco io. Manca Sala. Ok, allora a questo punto Sala? A questo punto so che Gava e Edo sanno delle ali e anche del mio piede, quindi a posto. mi rivolgo a Gianfe, cioè tutti in genere, voi tutti stamattina a posto, qualcosa di strano, di Edo, Gava, ok, cioè, sanno cosa mi riferisco, Gianfe, tu, tutto... Normale. Ma, tutto... devo essere onesto, amici... Molta grazie. Voi amici, volevo dirvi che sì, anche oggi mi sono svegliato, come dire, ho cominciato, non dico a dare i numeri, ma a dare qualche parola. Vabbè, ma è normale. Che torno a ignorarlo completamente, perché sì, capisco che non ha minimamente idea di quello. Edo, Gianna, voi due... Sì, anche io... Oh, infatti mi sono svegliato veramente strano, mi sento... Non mi ricordavo di aver comprato così tante cose l'altro ieri su Amazon, veramente. E sono scoperto anche per me. Non è vero. Sì. E Gava, voi due, niente. Gava, di io... Ma infatti Gava, che cosa ha fatto? Nulla. Ah, è vero, Gava. Io non ho interpretato se stesso alla perfezione. È il mio ruolo. È il tuo potere. Il tuo potere essere tipo... Medioman. In realtà è tipo Misfits, alla fine Gava è il più figo, ma non lo saprà nessuno tranne l'ultimo episodio. Esatto, in cui muore. Però si scopre che è mortale. Va bene, vai. Quindi dicevo, voi altri, niente stamattina, qualcosa di strano, non è successo a nessuno? Beh, non al vostro livello, nel senso, non ho ali, piedi palmati, roba del genere. Aspetta, mi stai rispondendo, chi è che c'ha le ali qua? Gianfe, è una metafora, non... Come dire, gli amici, una metafora, non esistono. No, beh. Non esistono gli amici. Dopo essermi divertito un attimino a pigliarlo per il culo, lo metto al corrente della mia situazione, poi Jacopo deciderà poi lui se dirgli anche... No, che vedo le ali di Jacopo, devo capire una cosa, la grandezza delle ali devo capire. Così. Io lo guardo e fa, tipo con aria ultra stupita, eccitata e cosa? No, non fare battute, già. Non si fanno battute su. Vola, vai, vola. Sì che. Gianfè, tiro di sì. Ah sì, io impazzisco. Ah, tanto, è sempre il mio disegno, non giovane. Aspetta. Ovviamente io di tiri faccio benissimo oggi, uno. Cioè, non sono riuscito... Psiche? E ti caghi un attimo in mano. L'ho perso anch'io il punto psiche prima. No. Non mi ricordo. No, beh, ok. Adesso stavi con qua. Sono partita 6 e scendi. Meno 1. Incredibile. Quindi okay, Gianfe, quindi adesso capisci più o meno la situazione com'è questo, quindi se hai qualcosa informazione utile. Senza parole praticamente. Io sono senza parole, sì, in realtà sono anche un po' terrorizzato e faccio Il diavolo! Va bene, Edo, dicevi prima che anche tu non... No, ragazzi, io ricaccio tipo dalla zaino, ricaccio tipo il media combo bruttissimo e faccio... Non era un surface, era solo un'illusione. Era tutta un'illusione. Non avevamo dubbi. No, io dico Marco, boh, cioè... Ripeto, non ho capito se sono io coglione che penso di prendere le cose e poi in realtà non le prendo. Cioè, insomma, vabbè, tipo quello che è successo, che sono arrivato in cucina, non volevo studiare, mi sono scomparsi i libri, li ho cercati per tutta casa, quando mi sono rimesso a sedere sul tavolo mi sono riapparsi in mano. Ah. Ti sei preso il tè, ovvio che sei un po' così. Ma si può vedere, a vedere tipo come è successo un attimo, cioè... Cosa hai fatto tu quando sono spariti? Cioè, io sono arrivato, ho fatto le solite cose della mattina. Sono fai un tiro di mente. Se ti ricordi esattamente come ti sei mosso. Tiro di mente, Edo. Ah, ok. No, che cazzo di questo? L'hai fatto? 4. Ok. E fai vedere? Vabbè, sì, insomma... Arrivo dalla camera, mi sono messo a sedere qui con i libri, però non avevo molta voglia in realtà, volevo anche mettermi a giocare al PC così, come sono messo a sedere, i libri sono scomparsi. Okay. E ho cercato di... Mentre rifai la scena, voi notate, tu no, Edo, che lui fa uno strano gesto con le mani. Mentre sta imitando. Sì. Io faccio... Pensi intensamente a uno 2000. Immagino di averlo tra le mani. Così. Beh, io a questo punto sono alla caccia di ogni anomalia, diciamo, che si vede. Ah, ma è tipo il personaggio che era nell'altra campagna, quello che faceva così con la mano, il bambino. Io dico, sono alla caccia di ogni... Però in realtà è come... Vabbè, vai. E niente, mi metto a sedere... E gli dico, a questo punto mi sono scomparsi i libri. Sì, Edo, cos'è questo? Che... Questo cosa? Con la mano. Non so, hai fatto una roba strana con la mano prima. Non te ne sei accorto. Tu. Sì, ma senti, io non me ne sono accorto. No. Lo dico io, però. Hai fatto una roba strana con la mano. Ho fatto una roba strana con la mano. Riprovo la scena. Hai fatto una roba stira, tipo così. Ho messo la cintura. Cos'è? Tira, mente. Chi? Edo. Due. Sempre meglio di me, sì. Perciò non vedo. Che? Ma rifai la scena, stavolta non fai neanche più il gesto e... Basta. Ok, allora forse... Boh, vabbè. A me, non so. Cioè... Non siamo solo noi due. Allora, ricapito, adesso Salla lo possiamo chiamare, dice adesso, è al lavoro? No, mi sa che è al lavoro, ma... Chiama l'ospedale, non è un problema. Mi ha fatto una risposta strana, mi ha dato, mi ha detto di andare stasera all'inaugurazione di quel locale, ma non mi ha detto nient'altro, cioè non mi ha detto tipo perché oppure... No. Scusate, ma voi avete problemi? Forse dovremmo chiamare un esperto in materia, chiamiamo Salla un attimo, che lui ne capisce queste cose. Ok, ok. Usiamo un attimo la logica. Io e Jacopo direi che ci siamo svegliati male stamattina. Gianfe, se ho capito bene, anche te. Se ho capito bene, non sono del tutto sicuro. Edo lo mettiamo in forse. Adesso tecnicamente l'anomalia ora è Gava. E infatti, perché siamo tutti spesso al solito? Gava, tu sicuro che non hai proprio niente, perché a sto punto allora è qualcosa che abbiamo... Che pizza avevi preso ieri sera? Che non... Sei stato tu volevi capire, io mi fidavo di te. Cosa ci hai messo in quelle cose strane? hai controllato bene che anche tu non avessi appendici sconosciute da stamattina? Aspetta, non mi ricordo, non mi hai sembrato. Tu a te l'hai svegliato proprio normale, senza problemi, senza niente. Sì, sì. Proprio un fiore. Così. Oh, sicuramente non si mi dio. Proviamo a sentire anche da Salla. Poi non sono io che sono anormale, scusate. Io sono allora, voglio dire, eravamo in 6 ieri sera qui. I 4 in questa stanza sembra che stiano avendo esperienze poco piacevoli stamattina. Vabbè, ma anche Salla è normale, no? E c'è non lo sappiamo, infatti adesso, Gianfe, se vuoi chiamare Salla, direi che... Ma due ore, ma avevi chiamato tu, avevo contattato su WhatsApp, non avevo chiamato. Sta al lavoro adesso, cioè in questo momento. Proviamo, direi che comunque cioè è una buona scusa per fare questa, no? Essendo fare je ne pas compris. Quindi? Prova a chiamare, tu rispondi al telefono. Mi telefoni proprio? Sì. Cioè, su WhatsApp, per cavolo, così che c'è. Su WhatsApp mi telefono. A bimbo. Chi è che piano, non le tariffe. Jump. E pronto, Jump? Oh, ciao, carissimo. E amico di sempre. Mi dico, non faccio segno di... Io faccio segno di passarmelo appena... Ti dico... No, faccio un attimo. Ma dici una cosa. Noi ieri abbiamo... Com'è stata la serata? Perché io oggi mi sento un po' strano. Un po' tutti ci sentiamo strani. Tranne Gav, che va buono. Sì, lo so. Spero che sia normale. Cosa sai, scusami? Sentite, ci vediamo stasera alle 7. Ricordate che inizia alle 7 inaugurazione. Ma scusa una cosa, come ci vediamo stasera? Ma tu c'hai una, ma tu c'hai un aereo privato? Chiamo dopo, sto lavorando e metto giù. Ciao, ti ho detto di passarmelo, però se tu non me lo passi, allora? Sei una palla, scusami. No. Ha detto qualcosa di utile? Per sì, ma ha detto che lui, anche... lui sa le cose. Mi dicono lui... che l'affermazione anche sale normale è un po' azzardata. Lui ha il potere della conoscenza, penso, perché lui già sa tutto e vuole che stasera andiamo a trovarlo. Ci incontriamo. Non so come arriva. Forse c'è il dono del teletrasporto. Oh. Sono molto tentato di richiamarti, Sal, in questo momento. Ha detto qualcosa riguardo... Lui sale. Io ho detto che ci sentivamo un po' strani e lui ha risposto che sì, lo sapeva. Ma come faceva a saperlo? Ah. Questa è una cosa molto... su riflettere. E ha detto di... e ha ribadito, come ha già detto al nostro carissimo amico Trilli, di vederci stasera. Si chiama Trilli oggi, ok, questa cosa è sempre più strana e... penso che non abbia mai avuto un potere più di adesso. Really? No, adesso hai il suo potere è tipo di stuprarti mentalmente già, so, e... vi spiace se sto il pomeriggio qui con voi un attimo cerchiamo di chiarire, ma riscrivo. Come no, assolutamente no. Io tanto c'è il mio PC che posso trovare in sala. Allora, io avverto mia zia che sto un attimo fuori con gli quindi, altri. Che altro? È quasi ora di pranzo? No, perché non ho nessuno da avvertire. Io non so, no, io pensavo di stare a questo punto di stare in casa fino a stasera e vedere se effettivamente stasera risolviamo qualcosa con... Ok, volete fare altro di speciale? Sì, allora, visto che stiamo tutti in casa, cioè, io, visto che Giampe sembra essere l'unico che abbia più o meno idea di quello che può fare, interrogo Giampe su quello che sa fare, su quello io che... posso trasformare la povertà in ricchezza. Dopo questa prima affermazione sono molto tentato di smettere, ma siccome è il nostro unico inizio... Io posso trasformare la povertà in ricchezza. Siccome la situazione... sono sì spaventato, però un po' anche mi intriga la situazione, cerco di capire... Comunque no, ragazzi, io vi racconto dettagliatamente la situazione. Dico, tutta la notte ho in mente una parola e questa parola sembra scaturire a me un potere... immenso. Ok, non capisco perché l'amato film con Robin Williams possa causare questo potere, ma... No, ma non dice solo Jumanji, dice altre robe strambe. Ah, ok, questo è interessante. Tipo Prisindra, perché... so dire Prisindra. Ecco, per esempio, tipo, gli passo il computer, chiedo a Jacopo se possiamo provare su un computer, su prendo computer. Il computer di Gava. Che... Ma io faccio, ragazzi, mi dispiace, però su io... Sul computer, fate. Prendo tipo il tablet di Gava... Saresti in grado di rifarlo? Su... No, guardo la televisione, faccio, ragazzi, questo mi stanca molto perché l'avevo accesa prima, faccio, ma non mi sembra che questa televisione sia un po' piccolina. Allora cerco di concentrarmi al massimo, immagino... Io lo osservo attentamente. 8K, 87 pollici. E poi? Il potere! No, beh, cerco di concentrarmi e migliorare cioè, il più possibile televisore, tipo televisore ultra generazione. Ok, e ti sforzi, ci provi. Ma senti che non hai abbastanza potere, non ce la puoi fare, è troppo grande quell'oggetto. Lo so. Quindi... Vedete lui che si sforza tipo, ci mangi... Gianfe, quindi qual è il problema? Perché con la TV non va bene? Non capisco, e faccio, non capisco proprio. Pensavo che il mio potere fosse illimitato. Non è illimitato. Allora provo a prendere... Prendo un dato di D&D che era rimasto dalla serata prima, che si era perso, okay. E cerco di trasformarlo tipo in un dado molto più grande con le luci. Cioè, vedete quello che ho messo? Quello tipo. E lo ripeto, ci mangi! Ok, il dado... diventa un po' più grande, non grandissimo, e diventa con le luci grande tipo così, ok, grande. E voi vedete questo dado che si illumina un attimo e poi diventa appunto questo oggetto qua. Per quanto la vuoi tenere? Il massimo? No, faccio... avete visto? Dipende, se io mentre lo faccio comincio a sentire che più lo tengo più mi stanco, giusto? Sì, esattamente. Okay, io appena vedo che il dado cambia dico prova a darmelo un attimo, dammi il dado. Io lo do, cioè, però mantenendo tipo una certa concentrazione, cioè non so se devo farlo, però penso di mantenere una certa concentrazione sul dado. Cioè, nella mia mente immagino quel dado, non so se è necessario, io lo do. Ok, è ancora trasformato il dado? Dopo una trentina di secondi in tutto, il dado torna normale. Perdi un punto fatica e ti scrivi, fai una prova di fatica. Vabbè. Una domanda per il master, tipo, sì, io ho sentito tipo il dado sei. Che cambiava. Ho fatto 6. Ok, hai sentito il dado che? Io ho sentito tipo il dado che cambiava di peso quando tornava normale, robe del genere. Sì, lo sentivo fisico. Sì, cioè, è diverso, è tornato... Nel senso, io sono convinto che fosse effettivamente mutato e che non era solo un'illusione. Sì. Lanf, scrivi il potere. Dove sta il potere, dove sta la luce? Sì, vado. Allora, il tuo potere si chiama evoluzionista. Wow. Wow, non so che cazzo vuol dire. L'origine è magica. Vista. Magica. Ok. Ok, tipo effetto. Ok. Il bersaglio è a contatto. Aspetta, prendo un bocca, vabbè. Durata continuata. Un'altra. Attivazione sì. Volontaria. Il difetto è che l'attivazione è vocale. Cioè devi dire la forma. Devi dire il Jumanji per farlo. Sì. Quindi... funziona solo con gli oggetti. Il grado è minore. Aspetta, il grado minore si dice? Sì. Minore. Puoi evolvere oggetti di dimensioni piccole. Conferendogli sì. Una forma potenziata. E questo è molto interessante. Potrebbe anche essere un'arma che fa più danno, oppure non so, un oggetto più resistente. La possiamo ruolare tipo che io mi sono messo lì insieme a lui un'oretta o due, gli stavamo a fare delle prove così, io lo incitavo a dire... Sì, hai visto che se dura tutta la durata, ti affatichi. Ok. Basta. Questo è interessante. Questo già è molto fa già interessante. Fatto, ha già finito, può andare a casa. Chiedere solo una cosa? Tu mi hai detto piccole dimensioni. Però, cioè, capisco che non è che piccole intendi di buildare, intendi comunque un oggetto che io riesco a sostenere col mio peso. Cioè, riesco a prendere un oggetto piccolo. Quindi un computer è, diciamo, il massimo che posso fare. Sì, è già anche abbastanza grande. Però non tengo 2 minuti, quindi... ok, a un certo punto io... potenziare anche in futuro. No, sì, dopo te posso trasformare pure gli oceani. Cioè ti dico questo... che è superiore, puoi evolvere di qualsiasi dimensione e gli puoi spammare un sacco di roba addosso. E a questo punto io sono... Ultima cosa, ma questo non lo so, forse non lo so, forse devo scoprire da solo. Posso trasformare solo oggetti inanimati? Sì. Ok, lo capisco da solo, non posso potenziarmi che il mio braccio diventa... No. Okay. E anche quando prima hai provato a potenziare me, esatto. Non ci sei riuscito. Da regolamento all'inizio. È grande, cioè devo farti più. Da regolamento all'inizio, quando hai preso il potere, io ti ho fatto tirare un dado. Il potere poteva essere o sugli oggetti inanimati o sulle persone, sugli esseri viventi. E tu okay. Hai tirato oggetti inanimati. Bocista. Magari lo puoi evolvere poi anche per gli esseri viventi più avanti. Non credo proprio. Vabbè. Acquisire un potere secondario che no, sarebbe troppo potente, cioè non sarebbe... c'è tra... sì. Cioè, puoi fare un altro potere ma non questo, vabbè, comunque altro. Ok, no, okay, io a questo c'è... punto sono no, piano, forse esiste estendere dominio come potenziamento, penso che tu possa prenderlo. Vabbè, ci pensiamo più avanti. Sto malissimo, dobbiamo continuare questa campagna per i prossimi 20 anni. Ok, Io a questo punto sono visibilmente eccitato perché non visibilmente in quel modo. Ma, e quindi faccio ma allora i miei poteri funzionano anche sulle persone. Boom. Ok. Phrasing. Vole. A questo punto faccio cenno a Edo di raggiungerci. Edo. Sì. Tu sembri essere l'unico che abbia più o meno sviluppato una cosa simile a Jump. Cioè, anche a te è successo qualcosa di strano. Possiamo provare anche un attimo che se c'è riuscito Jump, magari... Cioè... Guarda, è incazzato questa cosa. È il primo che ha scoperto il potere. Sarebbe ammazzato chiunque. Intanto è il primo che ha scoperto il potere, Jump. Giustamente, infatti. Edo, non è che magari anche questa cosa che ti è successa stamattina potrebbe essere qualcosa del genere, cioè potresti anche tu fare qualcosa di simile, possiamo riprovarci, ti va di riprovare un attimo? Proviamo. Allora, come stamattina, prendi, proprio come stamattina, vediamo, prendi i libri. Prendo i libri e metto a sedere. Ok. Pensa che non vuoi vedere i libri, che non li sopporti. Esatto, penso che non voglio studiare. E che odi, no. Pensa all'odio. Cerca di tornare con la mente a stamattina, vediamo se... Ok. Mi chiedo se potete più o meno replicare il gesto che ho fatto con la mano. Io lo riesco tipo ad aiutarlo rifacendo il gesto. Io? Ok. Io? Ok. 5. Ci assomiglia, ma non è esattamente quello. Hai fatto una roba tipo così o... così. Va bene, e allora mi metto a sedere, seguendo le indicazioni di Marco, cercando di ricordarlo più o meno. Ci perdi del tempo, immagino. Sì. A questo punto tanto dobbiamo far passare il pomeriggio fino a stasera. Quindi. Fammi un tiro di mente. 6, via, però dove sei? In che posizione della casa? Esattamente dove sono adesso. Ok, mentre fai quel gestino lì, vedi che davanti a te si apre come una specie di portale, piccolino, grande tipo così. Wow, porco, mi sto uccidendo troppo. Resta aperto il portale o si chiude? Sì, resta aperto, ma... Dio mio. Cioè, anche ho pensato ai buchi. Resta aperto. Dopo una trentina di secondi si chiude. Uh-huh. Vedo, prendi un punto fatica. E ti distrai un secondo dalla mi distraggo. Sì, guardi Jump che è lì che sta facendo le sue cose. Aggiorno la scheda di ieri, perché ho scoperto di avere Firebolt con 2 di 10. Che nabbia. Fantastico. Realistico, perché è successo. Cosa è realmente accaduto? Ok, questo è abbastanza figo. Sembrava tipo un portale, una roba del genere. Aspetta, è scomparso il portale, è durato poco? Sì. 30 secondi. Te la senti di rifarlo? Guarda il portale, è giunto qualcosa dentro. Io ci butto un dado, è la prima cosa che faccio, appena vedo il portale. Quasi istintivamente ci devo buttare qualcosa, no? I buchi bisogna riempirli sempre. Questo lo censuriamo diretto. Questo dovremmo mandare report di quanto offensivo. Ok, Jump dice che ci tira dentro un dado. Ci tira dentro il dado? In quei 30 secondi no, lo deve rifare. Ok, Edo, te la senti di rifarlo, tipo? Va bene, sì, riproviamo, finiamoci le mani. Cerchiamo di capire. No, io non riusciamo a fare. Infatti, cioè che ci rinvia qualcosa. Cioè... No, adesso deve fare il tiro di mente sempre per farlo? No, deve fare il tiro di mente. Ah, ok. Ho fatto 5. Rifai il gesto. si okay. apre il portale. Sì. Già. Cioè, il dado. Ci tira il dado. Il dado entra e scompare. Il D8, perché non serve un cazzo di niente. Avete 20 secondi scarsi per dirmi cosa fate. Anch'io prendo qualcosa dal tavolo a casa e lo butto dentro al portale. Entra. Sì. Io tengo una, io sei più piccolo della Sì, sì, sì, tipo prendo un bicchiere che c'è sul tavolo e lo butto io dentro. Io provo a metterci piano piano un dito. Oh, cosa? Il dito scompare. Tra le cose. Alla. Il dito entra dentro e dentro senti il dado e il bicchiere. Allora provo piano piano a metterci tutta la mano. Entra, senti il dado e bicchiere e poi il portale si chiude e la tua mano viene buttata fuori. Ah, e il dado e il bicchiere? Cazzo, quella era bella storia. Dado e bicchiere, ok. No, cioè non vengono sparati fuori, stanno dentro. È già qualcosa, che, è già qualcosa che la mano sia rimasta attaccata al corpo. Questo è fatica, prova di fatica. Vabbè, almeno se qualcuno per qua c'è un po' che riesce a fare i tiri normali, faccio dei più bene. Ok. Ti stai un po' faticando. Riusciamo a fare un ultimo esperimento? Un'ultima prova? Sì, però poi dormo, eh. Ok. Pensa tipo a... Prima gli chiedo cosa hai sentito. Cioè, che cosa c'era dentro? Il dado del bicchiere. Potevi prendere, scusa. No, ma faceva freddo. Cioè, faceva freddo, caldo. Non lo so. Com'era dentro? Com'era? Com'era dentro? Racconta. Ah, è dentro. Ah, è stato come tirare una salsiccia in un corridoio. Perché? Reale, perché? Censurare tutto. Allora, e niente, dentro non sentivi niente, come se non ci fosse aria. Cos'era questa cosa? Cos'era questo suono? Ah, non sentivo niente? No. Ok. Fai un'ultima prova. Prova a pensare di prendere solo il dado dal portare, tipo di far riapparire solo il dado, vedi se riesci a fare anche riapparire gli oggetti senza dover necessariamente andare dentro a tirarlo fuori. Ok, sì, ci provo. Allora rifai il gesto, si apre il portale e poi non vengono sputati fuori, semplicemente riapparire gli oggetti che sono. Si apre il portale. Ok, esattamente come prima. Se lo rifai dove era prima. Sì. Mm-hmm. Allora io prendo tipo una mela, che ci sarà una mela in questa casa, vado a prendere una mela, un mandarino. E ora che l'ho trovato si è già richiuso. Dai, santo Dio, 30 secondi, sta qua la cucina. Cazzo ci metto, io lo lancio. Prendi un mandarino. E lo lancio dentro il portale. Tira, riflesso. Però lanciando solo. Come? Fai un tiro di riflesso. Che cavolo dici? Che ci vuole il portale? Grande così, eh? Sei? Oh, sono, oh. Sono un cecchino. Colpisci dentro il portale si richiude. Edo, prendi un altro punto fatica, devi farmi un'altra prova di fatica. Io? Okay, okay. Edo. Ah, beh, ho tirato un mandarino, mica la palla da buio. Ok, ok, grazie mille. Cioè... ha fatto sei, perché Edo sa tirare a quanto pare. Ok. Lì. Abbiamo confermato che anche Edo non si sente proprio il solito, sì, oggi. Avete diciamo. Lasciato un dado e un bicchiere e una mandarina. E un mandarino. Vabbè, non tengo holding. Vabbè, la prossima volta li tira fuori, cosa vuol dire? Non è che... No, perché voglio sapere... Io dico, ragazzi, comunque non sono così, cioè, non sono così strappo come pensate nel tirare un mandarino dentro un portale. Anche a massimo ritrovo una banana se proprio devo fare doppio senso. Perché ho pensato il portale mantiene è uno spazio-tempo? Voglio vedere se il mandarino non marcisce. L'avete pensato voi questa cosa? Boom! Io adesso ci stavo pensando, non è che funziona come la bag of holding in D&D che tipo mantiene le cose in uno tipo nello spazio. Siccome lui ha messo la mano adesso che dopo aver fatto tutto questo, più o meno che ora si è fatta? Saranno le 3. Scrivo 3 minuti perché 30 secondi a testa. Allora lasciamo che Edo e Gianfe si riposino. Sì. Oppure appunto se 2 su 5. Dio, Edo, ce la puoi fare a farlo un'ultima volta il portale? Ti prego. Quando arrivo a... Provaci. È un esperimento importante. Ah, tornare nei punti fatica quelli che mi hai aggiunto, vero? Sì. Ok. Ma quanti ce ne abbiamo? Ok. Da zero, però. Sì, ma fino a quando posso arrivare? Mm-hmm. Non ci stanchiamo mai qua. Dico, Edo, puoi provare a farlo l'ultima volta? Boh, sì. Dai. Lo rifai nella stessa posizione di prima? Sì, dai. Io mi metto vicino, qui seduto dove sta lui praticamente. Granchisco le mie mani. Mm-hmm. No, guarda, provo a spostarmi. Cioè, dove lo faccio nello stesso punto? Dove lo fai? Tipo... sul divano. Ok. Io mi giro allora. Apri il portale. Mm-hmm. Provo a mettere la mano dentro. Io invece mi concentro sul portale e cerco di ingrandirlo. Un attimo, aspetta. Non c'è niente dentro? Non c'è niente dentro. Quindi è una specie di portale dimensionale. Cioè è un'altra... Esattamente, è un portale dimensionale. Molto interessante. Io mi concentro sul portale. Ah, quindi se non lo fai esattamente dove stai prima... Merda. È una bottata, però è utile quando lo possiamo trasferire. Scusate, però non ho capito, i libri... perché erano... Cioè, perché effettivamente si sono riapparsi quando sei tornato nello stesso punto di prima. Ma perché sono... Cioè, nel senso, io non li ho messi nel portale. Perché l'hai fatto inconsciamente. Hai appoggiato i libri e hai aperto il portale. Poi dopo, sotto quando dopo un po' ti sei rimesso lì e li hai ripresi e... Inconsciamente. Perché hai messo le mani nel portale. Allora, un po' tipo Stranger Things, cioè magari c'è un altro tavolo. Sì, no, penso sia esattamente un'altra dimensione. Sì. Cioè, tipo, esatto, che tu magari l'hai messo di là. È una dimensione specchio. Fate un po' di prove. No, scusami, visto che lui ha fatto sta cosa, io ho fatto fare. Io mi concentro sul portale e cerco di ingrandirlo. Giovanni. Vuole usare il suo potere sul portale di... Non funziona. Cazzo, sarebbe stato un futuro. Yeah, ma è una soddisfazione, sale. Cacciala c'è questa combo. Cacciala, c'è la futuro. Dai, ci può stare. Apprezzo l'impegno. Allora, ok. Sì. Scrivi, potere. Sì. Creare spazi extradimensionali. Ok, un attimo. Io sicuro che tu c'è il potere di violare. È lo stesso che ha anche quell'altro nella campagna di... L'immortalità della rigenerazione. Il difetto è diverso. Ma il difetto sarebbe bello pesante. Poi l'immortalità. Ok. Che cazzo di... Poi il tipo... l'origine magica. Il topo muore. Ok. Posizione. Città di quello vicino di chi sia. Sì. Bersaglio contatto. Contatto? Sì. Sempre qui. Durata continuata. Attivazione volontario, il difetto non lo sai. Sarebbe la classica storia. Attivazione volontà. Volontario, sì. È tipo, ok, quando vuoi. Il grado è minore. Evita il portale. Fondamentalmente tu riesci a fare un piccolo spazio extradimensionale, largo tipo 6 cm, qualcosa del genere, più o meno. Ah, c'è più largo di raggio, si fa conto. Otto. La grandezza però non è infinita all'interno. Ok. Cioè è come se fosse una piccola dimensione che tu crei dal nulla. Cioè non è la stessa dimensione. Cioè non c'è un tavolo dall'altra parte. Ah, non c'è niente, l'hai creata tu. Ah, ok, ho capito. Magari in futuro potrai crearci qualcos'altro dentro, tipo un'intera dimensione con altre cose dentro. Ma in questo momento la tua roba è come se fosse un piccolo sacchettino. Ho capito. Tu puoi metterci dentro oggetti fino al massimo che contengono. Per fare un esempio, se rimetti la manina lì dentro non ci sta più nient'altro. Ok. E puoi recuperarli se lo fai esattamente dove l'hai fatto. Ho capito. Una domanda, anche se io non c'entro tecnicamente. Se lui ha messo tipo quegli oggetti lì, e lo riapre dall'altra parte, può rimetterci altri oggetti oppure il quantitativo in generale? Se lo crea da un'altra parte è un altro spazio extradimensionale da di zero, è vuoto. Ok, top, ci nascondiamo. Però non so il mio difetto. No. Ok, c'è il difetto, se prendi tu se non lo so niente. Interessante, pare che siamo i più sfigati, io e te. Beh, non è ancora detto, infatti adesso... Forse sei più forte. Tan, tan, tan. Infatti adesso la mia idea era quella di mettermi lì con Jacopo, provare a fare qualcosa, non ho idea di cosa. Detto, ma... Io vi do loro due, voi cosa, cioè, cosa pensate per attivare? A te, penso intensamente a te, e faccio... Jacopo, dammi la forza. Ma io penso di volerlo fare e basta. Cioè, ok, quindi congeli. Io non lo so, io penso a quello che voglio fare e sembra che le parole escono da sole, le mie parole. Ah, tipo delle parole. Ho delle parole, sì, che mi vengono... Ma la più particolare è giù. Probabilmente invece c'è anche una gestualità. C'è il gesto, sì. C'è il gesto. È evidente che mi sa che siamo un po' degli Eros. Roll credits, fine puntata. No, vabbè. Abbiamo ancora una, dai, ancora una mezz'oretta ci sta, possiamo ancora provare. No, volevo pensare. Siete voi che avete gli esami, io lavoro e basta. Io ho ancora lezione. Volevo concentrarmi un attimo a vedere se mi viene in mente qualche parola. Tipo già. Non ti viene in mente nessuna parola. Su cosa ti concentri? Boh, sulle ali, su. Boh, non lo so, qualcosa. A muovere le ali. Cerco di... Io glielo consiglio, dico, scusa, ma tu non senti che puoi avere padronanza delle ali? Io allora cerco di toccarvi le delle ali. Io sento che tu... Cioè, ti sto toccando. Esatto, cioè, è tipo una cosa, cioè... Cerca di... quindi se tu senti qualcosa... Allora io che faccio? Vado in cucina, prendo delle cose di ghiaccio, prendo un po' di ghiaccio e lo tocco delicatamente, voglio vedere come reagisce. Sì, parte la musica erotica. Oh, esatto. Sì, esatto. Per forza, sei intelligente, la pelle reagisce. Se fatto io da tutto questo. Ma no, ha senso, perché pensate? Una volta che non pensi che ha il doppio senso, ci pensi tu. Guarda, siete veramente grandiosi. La musica sexy. Ma vabbè, comunque sì, prendo qualcosa di freddo. Sento freddo, ma non reagisci in qualche modo. Sento freddo. Io se ti tocco tipo sensibilmente col ghiaccio, tipo qua, tu fai distinto, ti pieghi, quindi lui rimane impossibile. Così. Stessa sensibilità rispetto al corpo. Ripeto, il corpo caldo, soprattutto in un ambiente come questo, d'inverno, se è a contatto con qualcosa di freddo, penso che reagisce... che si ritrae, quindi voglio vedere se queste benedette ali si muovono e lui si accorge di aver mosso l'ala. Sì, si muovono e lui si accorge di aver mosso l'ala. E allora rifai la stessa cosa che ti ho appena fatto fare. Prego, comunque, non ti insegno. Non ho capito. Sei sensibile. Sì, faccio così, tu vedi che fai distinto così, la stessa cosa. Ho capito, ma non ho capito. Vabbè, comunque... può muovere le ali, che ne so, cioè, un po' l'ala lentamente, ma si muove, sì. Quindi cioè riesco a controllare consciamente. Le muovi, non si muovono tanto, fa conto che fai. gay. Io cerco di mantenere non siamo più che ci guarda e non so, ripensando a tutti... Io ho visto un sacco di film di supereroi dove la gente che imparava a volare... a volare lo faceva buttandosi da grandi grandi... Ok, Gianfe, vai prima tu, dopo Jacopo ti serve. Guarda, se lo facessi avresti un botto di più. Niente, io... Se provi a farlo ti do un botto di punti esperienza. Poi magari crepi, però. Io provo a mettermi lì a ripensare a tutti i film di supereroi e cartoni animati che ho visto da quando sono adesso. Non so, provare qualsiasi cosa, vedere se riesco a spostare gli oggetti, se ho una super forza, roba del genere, tutto ciò che provo a venire in mente. Tipo, fammi degli esempi. Ok. Cerco tipo cose tipo super forte. Provo a sollevare il divano con che è una prova di fisico. Sono i più classici adesso, non so neanche. Due. Fai pippissimo e non riesci neanche a sollevarlo, cosa che riuscirebbe a fare chiunque più o meno. si vede che è lo stress, probabilmente. è la meno forte. Niente cose tipo telecinesi o lettura del pensiero, cose, tipo emanazioni, nel senso tipo se riesco a sparare robe dalle mani, tipo... No, voi vedete Marco che fa... Ma non fa niente. Sì, a sto punto le provo tutte, non è che ormai... Cioè... Sarei curioso di sentire cosa sta facendo Gava in questo momento, in realtà. Ma io non credo di avere nulla, Marco. Cioè, basta. Ok, allora, visto che le missioni non funzionano, provo tipo anch'io le trasformazioni, tipo, non so, mi concentro e divento invisibile, divento... Allora io provo a toccare Gava. Mi illumino. Con mano esperta. Con mano esperta. Riesco tipo a volare, provo... potere avere i piedi palmati, cioè, ne... può essere. Magari in acqua vado super veloce, che ne sai, cioè, diciamo, secondo me neanche provo a concentrarmi per vedere se tipo riesco a volare o robe del genere. Non succede niente. Non sei un drago, fai dei saltelli su te stesso. Sì, cos'altro devo fare? Sta lì, dobbiamo far arrivare alle 7, non è che possa stare. Ok, passa il tempo. Voi altri? No, io provo a concentrarmi e sparo una palla di fuoco. Cosa? Mi concentro e cerco di visualizzare una palla di fuoco, perché viene in mente un personaggio. Fai un tiro controllo. Oddio. Può fare? Io me ne vado. Me ne vado veramente. Vorrei precisare che lo sto facendo fuori dalla finestra. Cioè, questa finestra qui... Verso, cioè, aperta, la finestra aperta, la apro io perché vedo che lui sta concentrando. No, no, la apro io. Ah, ok. La faccio diventare un'altra finestra. Una finestra io. Controllo quindi. Quindi sei? Ho fatto 3. No. Ma la domanda è: se facevi 6. Facevi la palla di fuoco? Cioè, quindi non succede proprio nulla, zero. Che cazzo metti la fa? Sì. Oh, per ridere. Cazzo. Ti posso chiedere un'altra cosa, Salla? Lo so che ti nervosisci quando parlo. Quando io posso fare evolvere degli oggetti, tipo il dado così, posso... Invece che focare, tu dici potenziato il dado, posso invece che renderlo più grande, estremamente più pesante? Non estremamente, un po' più pesante, sì. Perché è più grande, cioè è rapportato, lo stesso materiale ingrandito, quello è. Oppure diverso materiale più pesante. Ok. Qualunque materiale, ok. No, era curiosità. Vabbè. Tipo, ti cade una pista, di una tonnellata e muori, cioè, capito? Quella è l'idea. Ah, niente, io sto continuando. Un po' più pesante. Salite cosa provate, se no poi se arriva alle 7. Provo ad allungarmi. No. Provo... Vai, io mi ammazzo, cazzo, vediamo se sono davvero immortale. No, ci sarebbe anche tipo la rigenerazione, ma non ho voglia di provarla, sinceramente, quella. Mi taglio un dito. Un piccolo bucherellino con un ago, non è che ti devi tagliare un braccio. Lo so. Puoi farlo se vuoi. Facciamo. Okay. Disinfetto un coltello con qualcosa, non lo so. O un aghetto, un qualsiasi cosa, e provo a pungermi un dito, vedere se no, okay. Pungermi... Il punto è che se mi pungo un dito non si vede niente, cioè... no, prendo il sangue. Sì, sangue è una cosa. Prendo una lama e provo a farmi, dopo averla disinfettata, provo a farmi un taglietto su un dito. Quanto grande? Ma... tipo mezzo centimetro neanche. Da giustificare un punto ferito. Di profondità? O addirittura. No, è appunto... si toglie. Da giustificare un punto ferito. Cosa intendi per giustificare un punto ferito? No, non voglio tagliarmi. Ti fai un taglio, tipo come se ti tagliassi fa conto così, cioè da qua a qua. Giusto? Ok, sì, diciamo. Più corto? No, circa così. Però so, senza esagerare, non voglio... Magari lo faccio tipo al lato della mano. Faccio tipo qua nel lato della mano o cose del genere. Beh, chi l'arteria? Muore. Non male. Ok. E comincia a sanguinare. Ma sì, ma incredibile. Oddio, ma davvero? Ti rigenera? si rigenera. Sangue verde. Nel senso... Dopo qualche secondo, la ferita scompare. Stai al top, fratello. Boom! Oh. E tu che pensavi essere una semplice paperella? E poi okay, scrivere questo è... fattore rigenerante. Ah! Cazzo? Cazzo, Wolverine! Ho qui! E questo che... Wolverine però posso degli artigli alle plaghe di Valvanti. È genetico? Immaginavo. Vabbè, tipo effetto, bersaglio personale. Ve lo ripeto, io so normale, non so come voi che siete strani. Durata prolungata. L'attivazione è volontaria. Tu stavi provando a rigenerarlo e si è rigenerato. Non sai qual è il punto debole. E guarisci 10 punti salute a round in una locazione a scelta. E invecchi di un giorno ogni due. Carino. quindi praticamente se lo usi per tutti i giorni, dopo 20 anni muori. No, immagino che quello dei giorni sia passivo. È passivo e invecchi di un giorno ogni due giorni. Vuol dire che praticamente ho raddoppiato la mia durata di vita. Ah, invece quando, io ho capito che quando si rigenerava, capito, come Super Saiyan, capito. Cioè dura cazzo? Sì. Ma quindi sei... Poi avanzando invecchierà un giorno ogni 7, poi un giorno ogni 30 e poi ciao. Poi non invecchi. Beh, ormai sei morto, cioè, sì. Se pensi che Sala ci mantieni in vivi così tanto tempo. Se ti spari in testa crepi uguale, che... non è che... Il punto è che adesso tipo ho scoperto il potere, però non è che non abbia neanche troppa voglia di sperimentare, perché devo continuare a tagliarmi tipo emo per... Io provo a fare la stessa cosa, così per vedere magari non te lo considero il culo. Cazzo, bello quel potere! Ti fai un taglio. Ti fai un taglio. No, un taglietto. Io provo a fermare, dico, mi sembri molto delicato. Faccio un taglietto, pugno sul dito e... E continua a... O anche cose tipo... tipo immunità alle malattie o robe del genere? O? Proviamo, andiamo a vedere uno con l'AIDS e te lo cominciamo a tagliare. L'immunità alle malattie e ai veleni è tipo maggiore. Ah, ok. Provo a sollevare anch'io il divano, a pensare di diventare invisibile, a allungarmi, vedo tutti i supereroi che conosco, veri o non. Provo a diventare Super Saiyan. provo a correre un po', provo a... mi butto dal divano, tipo per terra su un materasso d'aria. Cioè, provo a fare un po' di tutto, cioè, nel senso... Devi essere specifico. Ti dico già che il tuo non è facile. Ma c'è le ali, vola. Ma non è facile come trigger o come potere? Come... Sì, cioè è tutto. Hai le ali, quindi prendo una cosa associata alle ali. No, non è associata alle ali. Perfetto, non ci pensare. Non so, mi vengono... Provo a dare dei suggerimenti. Cioè, nel senso... Marco... Prova a vedere oltre qualcosa. Marco, non è che tu ci hai pensato di rigenerare? Stasera. Sì, ci ho pensato. Cioè, tu hai pensato, adesso mi rigenero. Cioè, è stata... Le ho provate tutte, a sto punto. Una ha funzionato. Dobbiamo andare al locale in centro. Cazzo, è vero. Davvero, sì. Che palle. E, Sandy, ci puoi portare tu? Sono anche vestito un po' malamente, perché sono uscito di casa stamattina, così, però andiamo. Andiamo. A meno che non ti venga un'idea, non è facile. Tu, io provo a suggerirgli, prova ad allungarti. Prova ad allungarti. Prova, no, io ho detto, cioè, ho provato ad allungarmi, ho provato a sollevare il divano, a correre veloce, a pensare di volare, a pensare di non pensare. Prova a respirare sott'acqua. Prova a respirare sott'acqua. No. Provo a... Puoi provare a guardare oltre le cose oppure pensare di... che ne so... Ah sì, anche, sì, o diventare invisibile. No, cioè, invisibile, provo, provo a guardare... Cioè, immagina un posto e cerca di andare lì. Anche, sì, è vero. Secondo me c'è qualcosa in spazio-tempo, tipo dimensione ma non proprio. Può essere, sì. Delle... Posso vicino, però non penso che... Beh, penso a, alla festa di stasera. Penso sia abbastanza vicino. Pensa che è troppo tardi che vorresti tornare un po' indietro nel tempo. Ti prego, pensalo. Intensamente. Penso sia questo che è il tempo. Beh, penso a roba di modifiche spazio-temporali, diciamo. No. Cazzo. Ci speravo così tanto che diventasse... No. C'è già un Heroes in questa ambientazione che controlla il tempo. Ok, dobbiamo prepararci. Vabbè, Sam ha detto dobbiamo andare lì e allora andiamo. Sembra abbastanza. Così ti dice che potere hai. Almeno non siamo del tutto. Non so come ha fatto. Vabbè. Non siamo proprio del tutto ignoranti come prima. Almeno abbiamo qualcosa. Vabbè, infatti, voi tre avete già scoperto qualcosa. Gola. Quando se sto per morire, faccio. Cava, poi. Proteggi. A questo punto Gava deve venire, non ho ancora capito. Come deve venire? Popolazione locale, secondo me. No, era una battuta. Per dire. Alle 7. Che senso deve venire Gava? Non ho capito. Deve venire... Mi sembra che non abbia minimamente nessun potere. Io sono normale. Continua a ripeterlo. Scommetto che lo diceva sempre la tua mamma. Dovresti ammetterlo ed è l'inizio della terapia. Commento che te lo dicevo. Una cosa, Gava, prova a prendere il tuo prodotto Microsoft in mano e vedi se senti un cambiamento tuo. Mi sa che tu c'hai un potere dentro, Bill Gates che mi scorre nelle vene. Che schifo. Sei e mezzo. Schifo. Prendi gli antibiotici. Se Sala sa qualcosa, ci dica qualcosa lui. Spero. Anzi, bravo. Ho visto già di morire molto bene. Che altro possiamo fare adesso? Allora, se Jacopo decide di non buttarsi dalla finestra, il locale scendere sulla strada visto in via delle Belle Arti, eh? Il locale è in via delle Belle Arti. Okay. Come se andiamo all'autobus? E si chiama Sanctuary. Wow. Non lo conosco. Andiamo. L'hanno appena aperto. Comunque rimango tipo sul mio ben divano prima che andiamo, per mi rilasso un po' perché mi sentivo stanco. Non so se io dovrei sentire stanco. Arrivate verso le 7 ed è l'ora dell'aperitivo. Oh, si mangia. Il posto è fatto tipo pub, ha un po' di baristi e non è tanto grande, è praticamente una grossa stanza con un bancone, dei tavolini all'interno. Vedete che potrebbe mettere anche dei tavolini all'esterno, però fa un freddo cane, non ci sono. E c'è sul bancone della roba tipo aperitivo e c'è già un po' di gente. E c'è? C'è un po' di gente. Tu ci stai? No. Cerchiamo te. Io ti cerco, io ti chiamo su WhatsApp. Ma abbiamo tipo una prenotazione a nome tuo, robe del genere? No, siete stati invitati all'inaugurazione del locale. Chi ci ha invitato? Scusa, che ore sono? Un evento su Facebook. Ok. Dobbiamo fare qualcosa una volta arrivati o semplicemente... No, è appena aperto, vedere com'è. L'inaugurazione si tocca il cibo. Boh, io prendo il cibo in vira e sto a sedere il manico. Ok. Anch'io. L'inaugurazione è costato un po'. 2 euro. Che cazzo? Ma le inaugurazioni sono gratis, so. Non credo proprio. Ma io l'ho sempre vista così. Provo. Troviamo un posto. Un posto immaginario sono a pagamento. No, vabbè. E io insieme agli altri siamo un posto e poi io continuo a guardare se arrivi tu a un certo punto. L'inaugurazione nel senso che è la prima apertura, non è nel senso... Io le prime aperture le ho sempre viste con il locale che offre da mangiare a tutti a gratis. Vabbè, sti 2 euro ce li butto, dai. Vabbè. Ma niente, beva sbaffo. Beh, puoi non prendere niente. Sì, 2 euro cioè, li paghi. Si paga prima o dopo? Si paga quando chiedi da bere e paghi. Allora posto, io non bevo. No, faccio raga, pago tutto io. Sei ricco. Allora, tutti voi avete... Questa non è molto da jump. No, infatti, volevo dirti quello che facevo, se poteva essere. Tutti voi avete un totale di 500 euro a testa. Io prendo 5 euro e faccio diventare... il massimale che posso. Jumanji! E svendo una banana da 5 euro. Veramente? Sì. Sei veramente cordialissimo. Non pago più a nessuno, me ne vado. Vabbè, io caccio 2 euro e pago. Pure io. Quanto stanno i soldi? 2 euro, avete 500 euro a testa. Non c'è scritto quei soldi. Vabbè. Possedete tutti gli oggetti che possedete nella vita reale. Denaro, l'ultima volta. Sì. Ah, denaro, eccolo. 500 euro. Anzi, no, è 498. Ma ciò. Anch'io sono un attimo in difficoltà perché ovviamente sono astemio, quindi so. Allora, le cose sono tipo bar normale, con alcuni tipi di birre diverse, niente di eccezionalmente complesso. E della gente che c'è dentro non riconoscete nessuno, però non c'è tanta gente. E niente, c'è posto a sedere se volete. Ok, sì. Abbiamo un posto, okay, magari che in cui si veda l'ingresso, così vediamo se arriva anche Salla. Ok, state lì un po'. Il locale di fatto è solo quella stanza lì. Non è piccolissimo, però non è neanche una roba enorme. Avrà 5 tavolini, tipo. Ok. Cose del genere. C'è un bagno in fondo. E basta. Quindi tu non ci stai in pezzi, questi non si vedono. Vabbè, io prendo da bere, cerco un tavolo, e un tavolo, se è possibile, un tavolo dove ci possiamo stare tutti, e mi posso vedere. Cioè... lo raggiungo. Io intanto ti mando un messaggio, Salla, chiedendoti quando arrivi, dove sei. Tipo... Ok, state lì un po'. Considerate che sta arrivati verso le 7 qualcosa. Verso le 9, 9 e mezza, yeah. Si è affollato, c'è un po' di gente in più, non tantissima, però un discreto numero di persone, e ti rispondo su WhatsApp con calma, tipo la porta verde dietro il bancone. Mamma mia, manco la CIA risponde così, madonna santa. Ok, questo, l'ha, questo l'ha mandato Salla. Sì. Che facciamo? Andiamo? Ah, buono. Ah, sì, dopo di te, tanto tu non puoi morire. Vai pure. Non ti tosti stavolta. Va bene. Non puoi morire. Cioè, può faccio morire. Strada agli altri e mi dirigo verso... la porta verde dietro il bancone, mi ferma qualcuno. Sì, sopravvivenza va a scoprire. No. Vedo che c'è qualcuno lì. Sì, ci sono, c'è un barista e c'è una ragazza che mette a posto, ma nessuno okay. Sembra cagarvi. Con fare proprio da chi appartiene, cioè, vado dalla porta. Stesso. Ok, vado porta dalla porta verde e... si apre e c'è una scala che va verso il basso. Ti pareva? Non voglio dire, tanto questa giornata è già abbastanza strana, quindi andiamo avanti. È illuminato però? Sì. Oppure è tipo quella che diventa sempre più scuro, più scende? Almeno quello. Almeno quello. Io scendo. Ok, scendete giù. Ci vuole la musica da disco in sottofondo. Profondo rosso, ovviamente. Scusa, una cosa, Salla, prolungato vuol dire che lo posso tenere attivo per un numero di round pari al mio dado di controllo, giusto? Esatto. E se lo tieni attivo per tutto il tempo, ti affatichi. Ok. E quindi puoi guarire 10 punti ogni round. Quindi posso guarire fino a 50 punti senza affaticarmi? Sì, praticamente sì, per una locazione. Certamente. Figa. Cioè, alla volta, diciamo. Certamente. Disattivarlo però è un'azione. Certamente. Ok. Ok, scendete. Arrivati giù vedete una stanza piuttosto grande, però spoglia, non c'è quasi niente. Ci sono alcune sedie ai lati e è una stanza abbastanza grande, è più grande del locale che c'è sopra. Oh. E in mezzo alla stanza ci sono io. Ciao. In una sedia che si gira, sei tu che carezzi un gatto, benvenuto. una nutria. Benvenuto. Esatto. Ciao. Ciao. Ehi. C'hai tenuto qualche spiegazione tipo okay, sì. Saluti. Questo l'ho fatto per voi. Per voi e per quelli come voi. In che senso? Vuoi dire che sono speciale o che sono ritardato? Gianfe e entrambe, soprattutto le no, non farlo rispondere, Gianfe, dai. No, gli rispondo così. Perché con questo fa. Intendiamo... Ma mi hai invitato solo per non lasciarmi a casa da solo, così oh. Venivo con loro. Come? Mi hai invitato anche a me solo perché così non rimanevo a casa da solo e venivo con, lo, con gli altri? E... Beh, anche. Anche se avrei preferito che tu non venissi, ma... Vabbè. E, comunque no, questo l'ho creato per voi. Questo è il Sanctuary e... Cioè aspetta, è il tuo locale? Sì, è il mio locale. Ah, cazzo. Ah, finalmente, oh, cazzo, un bar. Cazzo, dobbiamo aprire un bar. Mi dà conto l'idea di chi cassa. Capito? No. Ok, quindi... e con noi ti riferisci a quelli con i poteri, immagino, visto sì. Che ormai... Ah, quelli ritardati! Visto che... Allora io sono... Diciamo, quelli come voi non se la passano troppo bene. E diciamo che il governo non vi dà alcun aiuto, anzi è meglio se non vi fate vedere. L'associazione parallela è gestita da un certo professore, di cui non mi fido. Questo sarà il modo... per non farvi smarrire la strada. E direi che... Boh, mi piaceva come idea avere una sorta di centro sociale in cui, diciamo, potete trovarvi come rifugio. E in più qua potrò raccogliere tutte... le missioni, tutte le problematiche che abbiamo e che avete, e potrete, se vorrete, darci una mano per ognuna, per risolvere ognuna di queste problematiche. Scusa, una domanda, ma come sapevi che noi, cioè qualcuno di più, qualcuno di meno, comunque avevamo dei poteri oggi? Tutti voi avete dei poteri, purtroppo. Ah, io no. Federico, che poteri ha? Ma io no, no. Lo so, non sono io che ho quell'informazione. Quell'informazione mi è stata data da qualcuno che può vedere le cose prima che accadano. Ma ci sono un sacco di cose da scoprire, le scoprirete voi insieme. Io vi regalo solo questo. Che cosa? La speranza? No, un rifugio. Un santuario. Quindi anche tu, Salla, sei... hai queste abilità o... Non che io sappia. Wow, wow, riesce a teletrasportarsi visto che due ore fa stavi in Francia. No, non sono io che riesco a teletrasportarmi, ma sì, conosco qualcuno che può teletrasportarsi. Ah, ecco perché, che stavi in Francia. Quindi questa è la nostra Batcaverna. Esatto. E tu sei il nostro Alfred. Sì, signore. Da, in tutto ciò dov'è la Batmobile? Adesso niente, un Batmobile. Attimo all'invito, non so cosa dire. Va bene, allora grazie. Ma ragazzi, questo è un prezzo però. Per il team. Questo è un prezzo però. Te pareva, dovete restare qua. Sì. Dovete dare una mano. E ogni volta ce ne sarà bisogno, vi proporrò, o chi per me vi proporrà qualcosa da fare. Perfetto, c'è Giant che sa come pulire col mosso, già sì, sì. Fatto pratica sulla nave. Voi potete scegliere se aiutarci o no, ma in assoluto non dovreste essere palle al piede, diciamo. Dovreste dare una mano, visto che il professore è in agguato e anche il governo. Ok. Quanti siamo di noi? Beh, abbastanza. Quante persone sono a conoscenza? Oltre a voi. Compresi noi? Oltre a noi. Quante persone conoscono di questo posto? Questo posto lo conoscete solo voi per il momento. Io e altre due persone. Due? Sì. Il tizio che vede oltre le cose, quello che si può teletrasportare. Chi è il professore? No, solo il tizio che vede altre le cose e un altro. Chi è il professore? Chi è il professore? Il professore è qualcuno che è a capo di un'organizzazione di Heroes. Quindi non siamo gli unici? No, non siete gli unici. Basta. Per il resto... Come? Questo governo cattivo cosa vuole fare? Non è un governo cattivo, ma diciamo che l'Europa, per gestire gli Heroes e anche altri stati, hanno deciso di creare prigioni apposta per rinchiudere la gente con dei poteri e studiarla e tenerla al sicuro. Vabbè, io mi offrirei volontario di andare lì. Dove? Siete liberi di fare quello che volete. Mi capire cosa c'ho. Siamo franchi, questa situazione. Beh, anche un po' Marco. Eh? Niente. No, di Marco io, no. Cosa dicevi? Franchi e Marco, va bene. Ah. Dicevo, questa situazione. Come svizzeri? Oh mio Dio, sono arrivato dopo un'altra. Dicevo, noi e le persone a noi care sono in pericolo? A causa di questo? A causa del fatto che noi abbiamo... Dipende a chi altro lo fate sapere o come gestite quello che le vostre poteri. Cazzo, diciamo sempre se cominciate a dirlo in giro è più pericoloso. Ma sai che cancello subito una storia che ho fatto 2 minuti su Facebook? Tipo, in diretta... tipo la foto su Instagram di lui e Edo con il poltare aperto. Ehi, su... hashtag hero. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ok, e detto questo, quindi se vorrete venire qua in futuro ci saranno sempre delle cose da fare. Va bene. Ovviamente questo posto verrà arredato, adesso ho appena aperto, però spero di mettere qualcosa, tipo qualche tavolo sicuramente, Chi possiamo contattare in caso di necessità? Dobbiamo contattare te o ci sarà qualcun altro? Vi darò io un contatto, qualcuno di cui mi posso fidare. Ok, questo è... Vabbè, possiamo sapere che... Sono parecchie cose da digerire, ma... Immagino che non ci siano molte alternative. No. Ora se per favore Jacopo può uscire da questa stanza, magari io posso tornare in Francia e siamo tutti più felici. Perché devo uscire io? Per comodità. Sai qualcosa che io non so sul mio potere, per caso? Scusa, per favore. Ho un appuntamento tra una mezz'ora. Ma tanto puoi teletrasportarti, basta arrivare tra 29 minuti. Sì. Vabbè, faccio ok, ma non capisco. Cioè, mi allontano, vado verso la porta, cioè non capisco qual è... Ok, basta là, gentilissimo. Vedete che Salla, cioè me stesso, va verso una porta, apre la porta, e entra dentro e scompare. Vado a vedere dalla porta cosa. Provo a riaprire la porta a vedere cosa c'è. Dentro la porta c'è un bagno. Ok. E quindi tu non puoi trasportarti, puoi riportare spazi temporali? con chi stai parlando? Jacopo, con te fuori dal gioco visto che stai scappando. Sì, Jacopo, avrei una teoria. No, non posso. Avrei dimmi una teoria, Jacopo. Vieni qua e chiamo anche Edo. Sì. Edo, ce la fai ancora a usare il tuo potere per oggi o sei distrutto? Ha mangiato e bevuto birra. Boh, basta che poi mi fate dormire abbastanza perché sto morendo. Però sì, okay. Ha mangiato. Tutti fatica, come si recupera? Tutti? Ok. Più o meno. Dipende quanto tempo ci si riposa, quanta fatica è stata persa, eccetera. Vai. Pensi di poter fare ancora un attimo il tuo potere, un secondo? Sì, ci provo. Sì, va bene. E gli chiedo di aprire il portale? Devo fare qualcosa. Ok. Prova, Jacopo, prova ad avvicinarti ad Edo, il suo portale. Ok. Dovrei io. Cioè, fare il portale, vabbè, entrambi, tipo metto... Succede qualcosa, Salla? No. Provo a toccare il portale, a toccare l'altro mentre c'è il portale aperto, tipo sulla spalla e... Devi dire cosa vuoi fare, vuoi toccare Edo? Non c'è, cioè, di... metto una mano sulla spalla di Edo e metto anche una mano nel portale. Mi concentro a pensare di chiuderlo. Ok, fammi un tiro di controllo. Io sono sicuro che lo fa fare solo per incustodire la realtà di a cazzo. Ma io non ce la fa... Hai fatto 6, non ho giocato niente. Ho fatto 1. Ok. Allora, il portale si chiude. Puoi rubare i poteri, lo sapevo. Ti senti una gran merda. Ma ti senti proprio... Io mi sento una merda? Sì. Come se il mondo ti odiasse. Vabbè, come al solito, a posto, non è niente di nuovo. Giusto per essere chiari, non è stato Edo che ha finito il suo potere, è stato Jacopo che ha chiuso il portale. Cioè, io l'ho chiuso nuovo il portale. Sì. Ah. Mio Dio. Puoi rubare i poteri. Aspetta, lo faccio. Chiuderei così la sessione, però. Un attimo, possiamo fare qualcosa? No, basta. Vediamola così, dai. Ti prego. Dai, è cinematico. No. Oh, di Cliffhanger, ti prego. Ma Jacopo, puoi scrivere il potere? Ok, allora non serve più. Possiamo chiedere se sì. Potere? L'origine del tuo potere non la sai, però... Vabbè, leggendo il regolamento potresti dire che è divina. Ok. con le ali pensavo... Pensavo genetica con le ali. No, è più forte. Ok. Non c'è potere. Genetica questo potere qua. Ok. Il tuo potere è spegni i poteri. Oh, sapevo. Mio Dio. Sapevo. E... È tipo la cura dei mutanti. Quindi. Tipo effetto. Tipo effetto? Sì. Okay. Il bersaglio è a contatto, di solito. A meno che non lo puoi fare su te stesso, puoi anche farlo su te stesso. Durata continuata, attivazione volontaria. Ma quindi se tu attivi il potere su te stesso, vai in loop? No, ti puoi spegnere un altro potere che hai. Ah, tipo puoi cancellare un effetto di un potere su te stesso? No. Per esempio. Cioè, sì, però non è quello il concetto. Il concetto è che se, per esempio, tu hai un altro potere... che non puoi disattivare normalmente. Ah, ok, certo. Lui può spegnerselo. Tipo le ali? Puoi farle scomparire, giusto? No, le ali no. Sono di cioè, perché non sono un potere. Allora, non sai il difetto. Sono un potere, sono bellissimi. E il grado è minore, disattivi un potere del bersaglio. Quindi è lui l'OP del gruppo. Cioè, lo disattivo e basta, non è che tipo lo assorbo... Lo disattivi per ora. Se per lo ora. Conosci, lo puoi disattivare. Ok. Se non lo conosci, lo tiriamo a caso. Vuol dire basta. Che fa un tiro per vedere se riesce a disattivarlo? No. Cioè, nel senso, uno ha più un potere e non lo conosci, disattivi un potere a caso. Ah, ok. Certo. Se non hai un bersaglio definito. E un'altra cosa, le ali che hai sono ovviamente vestigiali. Cioè non ci puoi volare. Okay, dove lo scrivo? Boh, puoi scriverci su cose cose. Non è una tipo la sezione, è una locazione aggiuntiva. Più o meno che prenda il potere, cioè il potenziamento. Potenziamento, extra locazione, qualcosa del genere. Ali vestigiali, può rendere le ali ali e può anche volare. Ah, posso potenziarle quindi? Sì, c'è un potenziamento che credo che tu possa rendere queste ali utili. Ok. Sei una farfalla che annulla i poteri altrui. Ok, direi di chiudere qui. Perché dici che mi metto potere che sembra uno di più forti? Perché è inutile controversare normali. No, cioè? Beh, il fatto che lui è forte è solo perché l'origine è divina, che gli dà un sacco di bonus. Cioè lui potrebbe scegliere di potenziare, avere un potere secondario che non è tra gli associati, ma sceglierlo lui. Ah! Vabbè, dopo quello si fa con calma. Ah, intanto io vi darei punti esperienza. 5.000. Poi ci dovrai dire anche come possiamo spendere a tutti. Per ora tanto non ci fate una sega, credo. Sono tutti 4 punti esperienza. E chi ha scoperto il potere ne ha uno in più, quindi tutti se ne cavano 5. E Marco, che ha coordinato il tutto, ne ha uno in più. Yeah. Tanto questo è quello che farei se ci fosse benché minima possibilità che... Poi un'altra cosa. Le abilità che avete possono essere potenziate, allenate, oppure potete avere nuove abilità allenandole. Cioè, per esempio, se voi ora perdete del tempo a fare palestra, fa conto, dopo un tot avrete l'abilità palestra, pesi e cose del genere, come se fossero abilità vere, normali, reali. Ok. I punti esperienza li potete usare solo per il potere. Ah, ok, va bene. Basta. Detto questo, avete ascoltato il primo episodio di Zeroes? Avete? Ho ascoltato il podcast. Non è vero. E basta, non so se vorrete continuare questa campagna, vedremo in futuro. Assolutamente. Figa che voglio continuare. Illuso. E va bene. Ciao a tutti. Buona serata.